Pathfinder Campus. Podcast italiano di Let's Play di Pathfinder. Allora, previously, chi lo fa? Lancio un bel dadino. Un bel decente. Un dadino della Discord. Un dado da 3. Un dado da 3. Tieni. Di free. 1, 2, 3, 2, tu. Tu. Io. Giulia. Allora. Come cominciamo? Cominciava che eravamo ancora sulla nave circondati dalle ombre. Ah, bravissimo, vero. Quindi siamo stati circondati dalle ombre, lui l'ha vista per prima, l'ha visto, no, tu, avevamo iniziato con te, che eri in cucina a fare grazie al cielo la cena, senza nessun altro. No, stavo prendendo i piatti, Ah. No. Stavo facendo la cena. Stavo preparando un minestrone. Era imprecisato, stavo facendo. Perché sulla descrizione dove stavo preparando un minestrone, un passato di verdura. Grazie, ah già, perché non c'era carne. Che non studiavo. Infatti, prima o poi dovremo mangiare verdura. La famosa verdura nel deserto in nave. La famosa carne. Però non ha problemi a trovare resti di uomini. Scusami, però, cioè, i beduini mangeranno della verdura, non penso ci bevono solo di carne. Ci sono le magie per creare verdura. Un oasi. Eravamo lì sopra, siamo stati attaccati. Io me la sono scappata come proprio gambe levate perché facevano tanto paura. È uscito Avram, Jung. E poi Junkash. Si è tirato sì, tutte e due. Che si è preso tutte le ombre e se le ha uccise tutte lui. No, non è vero. Ma siete che ucciso di gatto uno. Ha fatto no, uno. Era giusto la sua versione. No, no. Ha fatto uno. Ha fatto uno. È vero. Mi dispiace, ma qua... Ecco, ti sei confuso vero, con Kata. Ha fatto ben tutto io. Esatto. Quel pirla del nostro... Io di... È stato colpito da un fulmine. Esatto. È stato colpito da un fulmine, giusto? Quindi tutto... Spiegato, tutto il problema se l'ha collato il nostro arciere. Qualcuno deve uccidere le ombre. Infatti. E quindi lui è diventato il Master of the Day. Esatto. Poi, dopo che abbiamo ucciso le ombre... Che cazzo era successo? Poi, che abbiamo aspettato. Nota bene che fanno danni alla forza. Alla forza. La signorina visto... lì stava per crepare. Giusto, stava a per crepare Leni un'altra volta. Aveva due di forza. Infatti mi ha detto non farmi morire. Ci proverò. Però si fanno danni alla forza. Però mi ha detto se va negativo alla forza non si muove, giusto? No, infatti abbiamo fatto un rule. Comunque. Poi cos'è che è successo? Che abbiamo e visto poi la morte di del nano con quello senza tre braccia. Abbiamo visto la sua morte. Meno male che non è morto la Cioè abbiamo visto la sua vita, dire vero, una cosa molto brutta e deprimente. E non mi ricordo neanche la sua vita. Così. Ah, meno male sono qui. Che spavento. La sua vita niente, c'era il teppista in una banda sì, col fratello alchimista, niente di niente di notevole o struggente, mi pare. Che ken sai? Una storia, diciamo, tipica di avventuriero. Suo famiglio. Un po' cattivello. E niente, quindi poi abbiamo deciso se andare alla ricerca dei nostri compagni sperduti nella città fantasma oppure no. Esatto. Quindi abbiamo deciso di incamminarci. Esatto. E niente, ci siamo incamminati. Siamo andati, siamo entrati con cautela all'interno della città. Bambini? Cosa volete? Se dovete seguire uno a uno, va bene, senza raccostare nessuno. Siamo entrati con cautela nella città, dicevo, e a un certo punto io, Damasco, non è che solitamente fa quei punti di tutti, si è accorta del fatto che eravamo seguiti dalle ombre. Perché ci siamo scagazzati in mano, per dirla proprio. Abbiamo iniziato a correre. Esatto. Siamo arrivati a un punto dove abbiamo visto questa specie di... Ma per fortuna la magia poi... Abbiamo visto un catoplebas, giusto? Che è una sorta di... Drago. Drago, renna, ciccione. Esatto, una specie di incrocio tra una renna e un drago. E un maiale, più o meno. Perfetto. Bell'incrocio. Infatti mi sono messo a mangiare con maiale ciccione. E niente, siamo arrivati fino al Catoplevas e abbiamo notato che le ombre non ci seguivano lì, giusto? Esatto, su perché su quell'isolotto non... Perché c'è una voce registrata di merda, no, che morirà. Che palesemente che non è registrata. Grazie al cavolo. Qualcuno ha fatto un po' di conoscenza per capire se è così o no? Mi prova di conoscenza. No, magari conoscenza arcane per capire se è vero o no. Oppure una prova motive. Di sense motive magari per capire... No, nessuno l'ha fatta perché la registrazione è abbastanza scontata. Però potete farlo se perché ci rispondeva. Se... Fa niente, se una cosa non è... Beh, non poteva è accurata, conoscere il futuro. Si è registrato questa voce. Sì, dammi. È una possibilità, ma no. Esatto. Magari è una IA, un'intelligenza artificiale. Vi devo insegnare tutto con Danilo, cioè non si può fidare di queste cose. Abbiamo allora, siamo andati lì, abbiamo... soffia di merda. Vabbè, abbiamo scoperto che queste ombre non ci seguono sull'isola dove era il Catoplebas per via di questa voce tra virgolette registrata. Ma per cosa? Come fa a Scucci? E lui l'aveva detto la voce. No, no. Aveva detto, sì, aveva detto, non mi seguono qua perché le sto tenendo a bada io, bla bla bla. Sì, sì, hanno, diciamo, ha detto che praticamente, mentre da un po' di tempo è riuscito a tenere la bada e hanno imparato non adesso l'isolotto, perché sennò lui gli bastona. Mm. Non, sì, so. Esatto. Non hai e quindi... studiato. E quindi, ah già, e quindi abbiamo sconfitto il Catoplebas. Poi la voce registrata... ci ha proposto, ci ha proposto sfida. Un'altra sfida con grandiosi premi. Sì. Ci ha mandato un altro chi è? Una viverna, può essere. No. Vabbè, un dragone verde. L'innorm. Sì, una sorta di lucertone. Abbiamo shottato anche questo? Esatto. Sì, prima che un po' meno shottato. Sì, questo, esatto. Eh? Non prima che mi facesse 65 danni. Davide stava grepando. Solo per, cioè, Abra. La prossima volta che uno non si mette avanti al god. Come cioè, che devi chiamare Abra? Cosa? L'altro giorno abbiamo parlato. Ah, lunedì chiamavo in tutto il giorno così. Ah, no. Jerry. Jerry? Risponderlo in podcast. Poverino! Perché chiami Abraham Jerry? Perché è il mio secondo nome. World Wide Web. Il potere di censura che ho in queste registrazioni mi salverà. Cioè, veramente taglia. E le registrazioni fa. I buchi. A un certo punto dico Jerry a casa della battaglia. Con la voce di Giorgio e poi la mia Davide. Abraham. C'è veramente il tuo secondo nome su... Dirò Jerry ogni 4 minuti. No, non è il secondo nome su scheda, è il secondo nome vero. Quasi avevo il tuo secondo nome. Probabilmente quando Giorgio ci soffia sopra. Davvero il tuo secondo nome? Sì. Io penso fosse il secondo nome di Abraham, non il tuo. No, purtroppo no, cioè... Ma Jerry tenuto di Gerardo? O Jerry? No, Jerry, proprio Jerry. Cioè, con la G. Ti chiamo Jerry. Ok? Aspetta che ti dico questo. Vabbè, non sei l'unico. Ce l'ho avuto per anni, non è andato con Jerry. Non sei veramente l'unico che secondo me non ti comunque, dopo bello. Questo... maltrattato. La voce è registrata, tra virgolette, sempre. Continua a pigliarci per il culo e dice che ci sarà un altro... Esatto. Ricco premio. Però prima del ricco premio ci ha sputato fuori il suo cazzo di... Tasti. Orso a 10.000 gambe e braccia con le corna e vola e c'ha la coda a forma di serpente. Vabbè, non cazzo non è. Però è molto figo, fatto sta. Vabbè, insomma. E siamo arrivati al punto che ci stiamo cagando in mano di nuovo. Esatto. Ok. E questo è di fuoco, qualcuno ha detto bene che no, i danni da fuoco non sono sicuri. Che danni da fuoco? Non gli fanno danno. E chi gli fa danni da fuoco? Quello che avete detto l'altra volta, visto Bacca, mi raccomando, non colpire col fuoco, avete detto, no? Nella speranza che non ascoltasse tutta la registrazione. Ma vi siete sbagliati così tanto. I miei sono danni da fuoco? No. Metto anche questo che come detto c'è. No, fai un doppio. Sì, metti. Non è che sì. No. Metti che crolla, non so, l'iPad. Allora? Beh, giochiamo senza griglia, direi. Avram vola via, sì, più lontano possibile. Ah. Io metterei questo casino l'altra volta con quel coso lì. Sì, va bene. Ma ero dietro o no? Sono i clear. Qua. Ok. Questi sono quelli che ho perso, giusto? Da tre. Siete usciti che sono uscito che è entrato la Lega? Boh, chi lo sa. Non mi ricordo niente. Quindi. Sei uscito. Beh, presumo essere uscito la Lega. Sì, quanto è grande? Tuccia gigante 15 quadretti non dire gargantuan huge Facciamo così. Giusto? Sì, 6. In centro. X. Direi che Baka sta davanti, no? Beh, sì. Ma mettiamoci per fiancheggiare, già che ci siamo, no? Tu fiancheggi in fisico, Khan? No. Cioè, Io fiancheggio... Ma tu fiancheggi il resto? Eleni fiancheggia. Sì, ma quante linee ha? Nessuno. Perché lei non ha nessun danno fa comunque? Perché non vi curate? Esatto, scusate, perché non mi cui con i mille perché non ci siamo curati? E io ho 33 danni su, non so come avresti giocato l'altra volta. Allora... Ma scusa, ma lui finché non l'attacchiamo non... Finché non dite la parola d'ordine. È vero, sappiamo qual è? No, però non ce l'ha ancora, non ce l'ha ancora detto. Allora questo... Ragazzi, non mi ha ancora detto la parola d'ordine. Qua c'è il PF. Ah, grazie. La parola d'ordine... Ma questa è... Non mi fare del male! Questa è la parola d'ordine, per questo... Questo qua. Cioè, ma perché non si chiede per un'ora e mezza e non sei neanche stato in grado di darmi la mia scelta? Certo, hai fatto così in modo antisgamo, cioè voglio dire, se no sarebbe un po' inutile. Perché sono io che decido quando disattivarlo, ovviamente, quando vuoi dare la parola d'ordine io lo disattivo. Te lo posso dire, non è che... Sicuro? Sì, sì. Non è che hai la mia scheda. Ho scritto Davide. No. Avevo pensato che qualcuno chiedesse questa domanda in caso. No, ho chiesto perché della Giulia. Pensavo, questo è quello della Giulia. Pensavo che l'avessi previsto, ti vuole dare un po' di soddisfazione. Sì, facevi bene. Giuro che te. Ah, è vero. Babbo. Ovviamente babbo. Ritiro tutto. Allora, per risposta per chi i grandi ascoltatori, diciamo che aveva la scheda sotto la cartella. Sì, avevo torto. Jerry aveva la scheda. Sì, Jerry. Grazie, sarà un beep. Fortissimo dalla che sfonda le case. Esatto. Lasciare tutti sordi per un minuto. Che potere che ho. Quando... Allora, ci prepariamo. Direi... Questo qui mi sembra bello gozzo, quindi faccio anche un'evocazione. Castaci, baffaci. E ist. E poi vado in giro. Questo animale, cioè, questa bestia magica, rispetto ai precedenti, non ha lo sguardo spento e... Ah, è tipo... È rincitrullito. Sembra essere abbastanza cosciente e tranquillo quello che succede attorno a... Anzi, mi fa anche così, no? In modo sai perché? Mi fa a me. Non a lui, a quelli a vicino. Io sono invisibile. Sai perché fa così? Perché è stato buildato da Danilo. Cioè, da Danilo ci sono interviste. Non l'ho buildato io. È un mostro del bestiario. Un mostro del bestiario. E non c'è aggiunto niente? No. Siamo sicuri? Sì. Ah, bravo, sappiamo qualcosa su questo mosso. Vediamo, facciamo una bella prova. Cerca di conoscere un po'. Che prova è, Master? A cane direi per bestia. No, forse natura. 10 più nature. Non mai. Li faccio. C'è una bella differenza per me. Cos'è? Bestie magiche? Ce l'ho qua. Vabbè, in un caso 23, nell'altro 16. 35. Vabbè, il mio 16. Muori. Lei ha... Cos'è? Spellcraft sarebbe? La Giulia no, ti sono un 17 la Giulia. Ti sono un 2. Che merda. Vergognati. Io ho tirato 20. Sì, arcano. Ma ce l'hai. Allora 35. No, ho aggiunto intelligenza. 35. Non so se puoi farlo. Cazzo. Mi sembra che tipo che se non hai la conoscenza non puoi. Davvero? Adesso nelle nuove regole se non ho per forza la conoscenza non posso, non posso. Ma da sempre. Se non questi hai nemmeno un grado non quelli puoi, quelli a meno che non abbia occhiali di 10, una DC di 10. Quelli che non sono colorati. Inferiore. Quelli che non sono colorati. Vabbè, ma aggiungo intelligenza. Ragazzi, ho fatto okay, 20. Ok, hai fatto 35, hai detto? 35. Con l'aiuto... Okay, con quelli che hai girato alto, immagino. 10. Ce li ho io dopo. Sono 25. Ok. Sai che è una bestia molto temibile e anche abbastanza intelligente per essere una creatura magica. Dice che siano addirittura creature cioè create dagli dei stessi. E un tempo fossero delle fate che volevano diventare più forti. Non hanno aspetto di una fata. Sarebbe forte per punizione se stati resi questi esseri originanti. Ma comunque erano belli a quindi qua in fondo sono carine e te... Come ti chiami tu? Mi chiamo Trilli. Che carino. Mi chiamo Trilli. Esatto. Sai che... Sai che ha anche delle qualità magiche non indifferenti, per esempio non servirebbe a nulla volare perché sarebbe in grado di raggiungermi in ogni caso. Può volare? È in grado di vedere l'invisibilità. Ah, quindi, può volare, vede l'invisibilità, sai qualcosa sugli attacchi? Fa tanti attacchi e fa tanto male. Che tipo di danni? Effetti. Tipo danni da fuoco? Sì, e poi... non so, magari con 35... Vabbè, fa danni da fuoco, cioè sì, certamente. Ok, grazie. Bene, cosa che sputa fuoco. Però tipo danni alla... Scusami, Danilo, sappiamo se Munar Mind Affecting? Munar Mind Affecting? Ma no, perché dovrebbe? Ah, è una domanda. Ma, ok. La bestia magica, cioè. Va bene. Ok. Sei immune alle frecce. Ah, sai che... Cioè, ovviamente è molto resistente al fuoco, ma anche altri elementi... Cioè, sai che comunque anche altri elementi potrebbero essere poco efficaci. Mm. In particolare l'elettricità. E... Quindi shocking grasp. In generale hai fatto un bel tiro comunque, cioè nel senso, sì, un sì. Bel po' sopra, cioè è più di... È il mio campo questo qui, ci sta fatto. Che sappia molte cose. Che hai fatto quasi 10 in più, quindi blocca il suono. Bravo Simone, l'occulta. E quindi aspetta, dicevo però in compenso è vulnerabile al freddo. Ah, okay. È vulnerabile al freddo, frostbite. E danni non letali? Non lo so. E invece un'ultima domanda, ma... Cioè, vabbè, ovviamente ha resistenza... Alla riduzione del danno. Quello, cioè, sì, chiaro. Una grande... Non lo so. Non importa, comunque. Ok. Va bene, direi che siamo pronti per... Una cosa importante, sai che va ucciso con un attacco di acido di freddo, altrimenti... Quindi il frostbite... Rigenerazione? Mi raccomando, non fategli troppo male. Comunque, cioè, non è come le altre bestie citrullite. Questo qua, io ci tengo. Cioè, facciamo così: voi non gli fate troppo male e lui non vi ammazza tutti. E il patto consiste nel fatto che non ci uccide subito? No, non vi uccide nel caso stia vincendo lui. Ah, non so se fidarmi. Neanche io. Vai, senso morto. Beh, forse è meglio. Vabbè, che vi frega, tanto, cioè, non è che 19. Più meno 1, 18. 23 più 14. Ecco, bravo. Non vi sembra che stia mentendo? 37. Beh, alla fine che ce ne frega, noi lo picchiamo. Quando poi lui dice poi basta, sembra anche una bestia intelligente comunque. Cioè, abbastanza per essere una bestia. Quando lui dice basta, basta, ma che vada, se fa il furbo gli ne diamo ancora. Mi rivolgo direttamente al mostro e dico, tu che dici? Sembra dire di sì. Ok, faccio poi se smorti sul mostro. No, 28. Va bene, allora facciamo una amichevole. Poi non so cosa sta dicendo, però. Va bene, allora facciamo una bella amichevole. Ok, io magari evocherei. Forza, Trilli, fatti sotto. Evocherei questi. Si chiamerà Trilli questo mostro. Evocherei i dinosauri addosso. Triceratopi, sì, e via. No, non volevi. Era un di 4 più 2. E guarda, sono Summon Monster 6, quindi un di 3 più 1. Adesso vedo che incantesimo fa la Giulia. Tipo... Triceratopi in modo che possano caricare, li metto. E ne evoco un di 3 più 1. Minimo 2. Che 4 Triceratopi. No, 4 Triceratopi. Vabbè, bravissimo, 4. Che metto in modo che possano caricare. Banda! Devono fare i due quadretti? Sì. Hai quattro angeli, dai, e botte. Vi faccio questi tre incantesimi nei due turni prima di dichiarare la parola. La parola dovresti dirla? Sì, perché ce la dobbiamo ricordare? Beh, ricordate, non ce l'ha detta. Ai, non fammi male, roba del genere. Veramente? Ah, ero distratto. Non l'ha detta, però. No, sì. Vuole. Chi sarà stato quando dico, babbo, quello è una cosa, ma aspetta. Allora, dopo... L'altra volta era così. Sì, esatto. Ma ci stava, cioè... Dopo che viene ferito per la prima volta, tutti hanno più due attivi per colpire e più due ai danni, ok? Per Bloodshent. In più, grazie a Rage, solo più due alla forza e più due alla costituzione. Più due forze, più due costituzione? Sì. Beh, non buttavo la costituzione. Ah, infatti. Ok. Vabbè, lo segnavo. Scusate, mi sono un po'... Lo segno se poi mi trovo in difficoltà. Esatto, c'è il gol. Cos'è che devo cercare? Magari non ti grappa. Quindi ci aggiungi più due danni, più due tiri per colpire. Sì, ma solo dopo il primo attacco. Oltre a quelli di Haste. Mm-mm. Sì, esatto. Ok. E bene. E poi diciamo la parola Bac. Ai, non farmi male. Hai detto tu? Ok. Hai detto lui. C'era mai più, ma va bene. È così, no. Io faccio 21. Ok. Questo è Giulia, questo sono io. Il bianco sono io. Quanto sommi? 2, vai. Faccio sommo 7. Ho fatto 14, dado. Giulia fa 27. Io ho fatto 7. Baca 7? Baca solo 7. Però sono già in linea, 27. Io da Nino sento che round. Va bene. Sì. Basta che lo segni. E la Totem non me l'avete segnati. Però. Era tipo 3 o 4. Va bene. Quindi Damasco 4 11 5 facciamo. Laura. Io solo 9, ho fatto 3 sul dado. Bellissimo. Che all'iniziativa sempre faccio cile. Basta fare i ok, prima ad agire prima degli altri è Eleni. Che, stranamente, che decide di... È la gnoma Eleni. Prova esatto. Frostbite, direi. No? Sì, col colpo con la scimitaga lo farei, no? Mm-hmm. Potrei castare solo prima Frostbite, vabbè. No, perché così lo recapita. Con l'attacco. Ah, perché ne fa uno in più. Vabbè, sì. Con quindi... Arcane Mark. Sì, certo. 17, minaccia di critico. Ecco, come vedere quindi come cazzo è. No! Ragazzi, con me, cioè, scusatemi, la prima regola è vedere come funziona i critici. È vero, hai ragione, gioca, no? È vero. Seguimo turno, 17, buono. E prova a confermarlo, prima di tutto. 2. 2 più 19, visto che fiancheggia 21. Più i 3 di... Più... No, non è qua ferito. Più... Tra più 1 di ace. Più 22. 22 sarebbe. Non so. Però non so, aspetta, scusami, è questo qua. No, non è quello col Flaming Blue, sì, beh, uguale, mi serve quello. E 22 tra l'altro lui è flat footed. Ah, giusto. Penso. Se non ha combat reflexes. Ma cavolo, non ha neanche messo i segnalini. Ma flat footed? Non ha la destrezza. Magari qualcosina teniamo. Questo è quello col Frostbite. Eh sì. Qui gli recapiti il Frostbite. Cioè quello, sì, sì. Se lo colpisci gli fai, e se superi la spell resistance, se ce l'ha, gli fai, e se non è immune di non letali, gli fai il tuo caster level di danni, no, più un danno adesso. Non è più così. Ah, perché dovevo voler cloccarlo, ma anche lei lo supera di default. Infatti lo supera di default. Primo. Perché è di primo, sì, esatto. Ok. Però ricordatevi che usa la swift action. Giusto. Ah, giusto. Non è da cosa può. Usa la sua swift action. Ok. Ma puoi, non è che non casti. Ah, no, niente. La swift action la puoi usare perché è un full round action. Non è proprio. Non so. La swift action l'avevo sempre fatto che ci stava. Ammazziamo il bot. Zaghe, basta pensare, si picchia. Tienale. Largo. Critical hits. Quando minaccia una creatura con critical hits. Lancia per confermare al tuo massimo del bonus e applica gli effetti del critico su tutti quelli che su uno qualsiasi no su uno qualsiasi dei tuoi colpi. Quindi puoi critare massimo una volta? Sì. Ma che schifo. Ah, veramente? Scusa. Che scandalo. Aspetta, se il tuo attacco originale ha colpito con più colpi la conferma e la conferma è anch'essa all'interno del threat range, fai due critici. Ok. Perché solo due? Ok. Quindi se hai colpito solo una volta, prende crit. Se hai più di una, due. Ok. Ah, due massimo. No, quindi. Così allora. Sì, massimo due. Cioè, se tu stai prendendo due, cioè se tu stai colpendo due volte, e il tiro della conferma è anch'essa una minaccia di critico, allora fai due... No. Sì. Quello colpisce. Il tiro della conferma... No, il dito così. Come ho detto io. Beh, sapete tutti. Anche se la prossima volta ti tiro ancora il dado, dovevi spiegarlo, però ok. Quindi non c'è solo conferma. Allora, se tu col primo attacco, che è stata la prima minaccia di critico, colpivi più volte. Ok. Cioè, almeno due, sostanzialmente. Ok. Beh, se hai fatto e crit. Poi il tiro per la conferma è un'ulteriore minaccia di critico, no? Allora fai due critici. Okay. Se no uno. Se no uno solo. Beh, minchia, più di due critici a round non è che ho mai visto fare io. No, è vero, a parte no. Casi eclatanti che non devo mai ripetersi tanto. Tranne Agoroth, mio padre ha fatti 4. Ma scusate, cioè io ho pensato il personaggio a fare i critici apposta. Dai, col 15-20 allora nervi così. Ma allora. Non ho capito se. Ha confermato con 22? Aspetta. Considerato che forse è flat footed. Aspetta, 30. No, 20, 20. Ah, 22, è almeno 2 più... perché lancio un incantesimo, scusa. 20. Perché il magus è così. Con 20? No, non conferma. Conferma. No. Ok, però... quello di prima cos'è che era 17? Era 19, non conferma, quindi non fa neanche un critico. Okay. Quindi 38. 38 più, vabbè, 2 di fiancheggiamento 40, 1 di ace 41. Ok, colpisce 3 volte. Senza crit. Ok. Senza mai fare un crit. Cioè, quindi sul secondo attacco non posso... No, scusa, no. Sbagliato. Cos'è? 41. 2 volte. Colpisce due volte più haste più frostbite. Spell resistance. Sì, spell resistance. 7. Più il caster level che è 14, 21 più la caratteristica. Cazzo di caster level basta. 21. Non fallita. No, infatti. Danni di... Quindi di scimitarra. Cos'è che hai fatto? Quindi un D6 più 16. Quindi fa 4 attacchi. Superare la resistenza agli incantesimi. 4 attacchi. 16 per 4. Per l'inizio una volta sola, però così giusto. Certo. Certo. È la prima... Sì, si supera, basta. Credo. Direi di sì. Non lo so. Sì, dai. Mi sembra quello dello spirito. 6, 10. No, scusami. Sono 12, 16. Più? 16 più 16 per 4, quindi 16 per 5 in totale. Aspetta. Beh, allora. Sempre togli la resistenza. 16 per 5. Allora, adesso ti dico il totale, 80. Eh? 80. 80. Totale, totale? Sì. Erano 4. Niente, neanche andato. Erano 4? Sì. Ok. La damage reduction è per 4. Eh sì, giusto. Se non hanno... No, scusami. Classico. Sì, giusto. No, due attacchi devo fare, no? No, 4 attacchi. Ah, ne avete solo due. Ah, ok. Scusa. Quindi altri due. Altri, fare. Sì. Ne hai fatto solo due, ma hai fatto 16 per 4. Sì, però... Di dadi, ma di dadi no. Ah, sono di dadi, ma... Sì, sì, insomma, sì. Insomma, altri... Qui... 12, 13, 43, quindi 93. 93. Buttali via, magari questo è un po' quello della, della Dama Reduction. 80 Dama Reduction, ma 13 danni ha fatto. Infatti, cioè, qualche danno ha fatti per sapere se applica o no? Sì, qualcosa si sì, ha fatto del male, certo. Tocca a te, Cam. A me? Sì. Come ti viene bene? Va bene, lo attacco con Flurry of Blows. Usi il key point. Tu controlli un attimo se hai tempo. No, se, non ha, uso. Se lo spell combat del Magus ti consente di lanciare come una swift action. No, non uso i key points. Così invece mi sono accorto che ne ho pochi. Ci sono comunque delle. Perché io mi ricordo che c'è una roba che per cui lui non può usare la swift action tipo quando fa il dimensional damage, quelle robe lì. Adesso tutto un attimo, no. Mi sono accorto che ne ho già usati 7. Non mi ricordo se li ho usati tutti la scorsa volta oppure già segnati, però comunque ormai sono qua. No, ecco. non penso che abbia già scorso. 7 in un solo. 7. No, o li usate nella battaglia delle ombre, tutti e 7. Dai, vabbè, ormai sei andato 7. Ormai sei andato 7, esatto. Quindi no, non lo usi. Key points. Va bene. No, usalo, chi se ne frega. Mai. 16 più 18 più 3. Quindi sono 37. 37. Ok, colpisci due volte. E poi vabbè, quindi tutto. Due volte più haste. 4 più il fatto che tu usi come tuo con fighting 5. No, scusa, cosa sei... uso? Tu la flare of blow funziona come tuo con fighting, cioè ti abbassa il tiro per colpire, poi a fare più attacchi. Sì, quindi è come se ogni attacco colpisci ne fai uno in più. Colpisci ne fai uno in più. Quindi 2 per 3, 6. Ok, 6. E ci sta con 16, direi che sembra normale. Sì. Qualche di 8, please. Cioè, ma puoi fare infiniti attacchi se c'è più super. No, devi farne comunque al massimo di quello che puoi fare normalmente. Allora no, non potevo, ne devo fare solo due attacchi con Giulio. No, perché mi hai contato che c'era dentro Frostbite. Cambio. Perché era attacco più di spell combat e visto. Toto, serve un diavolo. No, fatto. Perché infatti lei ha colpito solo due volte. In realtà anche lui ha colpito due volte, però sono tutti quelli in più. Non so quanto. Sono 7, 4, 2. Sono 13. Sto cercando di capire quanto sia valido. Sotto alcuni aspetti, sì. 13 più 5 sono 18. Quello. 6 sono 24. Più. Tu c'hai class thread shot. Bastardo. 24 più 12 per. Un sacco di anni. 24 più 12 per 6. 12 per 6 fa 72. E 24 sono 96. 96? Ok, da face. In da face. In da face, ma fa. E attacca Baka. No, Eleni, perché ha attaccato Eleni. Ah, può farlo. Alla fine mi sono scordato di fare Liberty in combat. No, tocca lui. Ah, tocca lui. Sì. Non è quando prende danni. No, che cazzo è? Quando prende 96 danni, l'attacco. Già 96 danni, cioè, tanto. 96 abbiamo fatto 6 attacchi. No, per il cluster sì, shot è tosta. Ne avrei fatti 8? Sì, non so se arriva. Se avessi stato il key point, ne avrei fatti 8. Fatemi agire, per bene, primari, quindi bene. Noi vediamo quanti attacchi fa fondamentalmente. Bene, ma se avessi 8. Usato il key point, in mia FCA, se avessi usato il key point, ne avrei fatti 7-8. Penso è direi, Elena. No, abbiamo e se 7 non fosse stesso, il mio numero massimo? La CA. Se il mio numero massimo non fosse 7. 24, io 20. Comunque 7. Perché, perché il key points non è come gli altri. Il massimo attacco in più, quindi 7. Lei ha di più, attacco di più, tu ne aggiungi due. Ha di più, no, ne aggiungi uno solo. Ti ho aggiunti altri perché tu usi come tu weapon fight, come se fosse tu weapon fighting, per quello. Ne ho aggiunti altri. Dai, tira, chi ha di più Eleni? E quanto? 4 in più di me. E dici, di quanto? 24. Oh, figa. Non si dice mai la CIA, scusami così. Non, è... non si chiede la CIA, una signora. Esatto. Non si chiede la CIA, una signora. Non si chiede, vero. Tu mi pare. Ti l'ho già detto. Non lo so. Sera che figo che ha due morsi, quello della coda. Che bello. Non aspettiamo altro di averli su 24. Tutti noi. Ok, quindi una volta il becca. E tira. No, ok. Allora, sto dando power attack, però no, anzi non usa power attack perché, perché già deve fare i danni non letali. Ah, li fanno letali, sì. Beh, noi non abbiamo bisogno più. No, perché altro mi si dice certo, che carino questi non letali, che tenero puccettoso. Colpisce una 39, quindi è più rispetto a 24 è a più 15, quindi 3 30. 3 vuol dire 6 primari. 6 primari. Tutti, tutti. Fantastico. Sì, no, un po' sbilanciato. No, non ne fa uno. Non è. Che ne ha massimo 7. Non è bilanciato. Ha due morsi, 4 claw e un gore. Quindi. È fatto così. I mostri diventano più forti, PG più deboli. Cos'è il gore? Infatti, stavo pensando. Cos'è il gore? Incornata. Sai che si può. Se non sbaglio, c'è uno che tipo del babbo che ti fa prendere le armi come attacchi naturali. Cioè, puoi usare le armi. Giù, dormi lì. La scorsa notte sì, però solitamente no. Si concentra su Eleni. Ok. Non finché non muore, chiaramente. Certo. Ma finché non sviene. Non può immaginare spawn. Vabbè, no, ce li ho qua i pezzi. Non è un letto. È un baciato. Sono così. Ok, quindi 7 e 9 e 9, 16 e 6, 22. Tutti su Eleni? Per ora sì, 22, poi 22, chi non c'è il rischio di ricordare? Esatto, cioè chi non c'è poi un sacco di mazzate. 22, 24, 24 e 3 fa 27. 27. Vai, vai con la lancia. Accorciamo questo tempo sul podcast. 27 e 7, 7, 7, 34. Sì, 14, cioè 34, più i fissi. 34 più 60? 60, sì. 94 danni. No, ha fatto 94 danni a Eleni. È sì. Estesa. È stesa? No, è 111 più. Ah, 111, scusate. Okay. 94. Ah, Eva. Chi tocca Baka? No, sono 6. Volte. No, mi si tocca male a Damasco. Cioè, tocca ancora Damasco e a Baka. Cioè, io non agisco ancora. Mi avete fatto sprecare la summon per... No, Baka tocca dopo di te. Ah, meno male. Così qua li fai caricare Damasco tu. Infatti spero di riuscire ad agire. Minchia, fate 100 danni ognuno. Lo colpisco. Quanti change ognuno? Lui già ha 1000 di damage action, certo. 16. Perché non diventi cluster shot? Non c'è per mini 16. Sì. Sì, fa sì, 32. 32? È una brutta vita. Capito? Sì, una volta però. Ah, però è touch, scusa. Lascia stare. Ehi, ciao! 400.000 milioni di volte. Sei in touch. Sì. Sì, l'abbiamo messo apposta. Ok, bravi. Quindi tu. Sei. Quindi sono... Oddio, quanti danni. Entro 9, cioè. Sono più... Tu quanti ne dai di più? Uno, con Ace. Uno. Ah, io non ho toccato... No, uno ho toccato di più. I due danni suoi. Tre. Tre ne dai in più. Tre, va bene. Altri 12 danni. Perché i suoi due danni. Vero, ricordatevi anche lei. È il primo. Abbiamo... Vabbè, non li fai. Così non riesco a far caricare qua. Quanto scusa? 32 il primo. Poi se no, ma tiri tutti assieme. Fai la somma. Tira e basta. Forse se ritiri rapida successiva. No, io tiro 6. Sì, chiami 6. No, devo tirare più volte. No. Va bene. Se clicca no. Questo qui, risomma. Il prossimo lo somma. Figato, bravo. Lo sapevo ancora. 3. Io sì, dai. 4. Penso ai danni. 5. 6. 184 danni. Dai, no, non può essere morto, tocca a me, ti prego. Dai, non farlo morire, no, no, raddoppi gli IPF, ti prego, raddoppi gli IPF. Io che con gli IPF raddoppiare. No, no, no, non farlo morire, fammi fare una carica di triceratopi. Ecco. Una carica di 101. Ecco io. Ma lei ha questo shot. Facciamo che è ancora vivo. No, no, ancora vivo. Così gioca anche te, bravo, bravo, Davide. Ragazzi, che bravo, Jerry. Diciamo Davide. Diciamo ciao a Davide. Dai, Davide, gioca anche tu. Tocca a me? Sì, tocca a Avram. Non vuoi fare anche tu? Allora, si rilassa e dice, oh, grazie. Vedete questi triceratopi che scalciano e cominciano a caricare tutti e quattro. Sommano 21, vediamo quanti riesco a farne mancare. Bene, un 3, un 2, un 20 e un 4. Quindi c'è solo uno. È un critico, sappiamo. Però colpisce bene. Però colpisce bene. 11 più 21, 33. Spostali intanto. 33 colpisce. Dimmi che conferma. Sì. Almeno, cioè, su 4 colpisce uno. Però ti ho fatto un 3, un 4. Vabbè, dai, sei in media perché era doppi danni. Quindi. E infatti, sapete quanti danni fanno? 4 dadi da 10 più 21. Ma più 19. Per 2. Per 2. 4 dadi da 10. 4 dadi da perché in carica, powerful charge. Faccio di 10. Si, ah, non grazie. So se si raddoppiano quelli. E perché no? E perché faccio un altro di 10. Perché non sono. Aspetta, faccio un altro di 10. Perché? Scusa, fai danni sulla carica. Danni non fissi. Ah, vero, perdiamo pure più 2 di carica. Sono magari non fissi. Ma sei sicuro che questi qua non hanno colpito? Sei sicuro che questo 4 non ha colpito? Ma i danni fissi? I fissi sì, ma non sono 4 di 10, cioè. Ah, quanti sono i fissi? Cioè, nel senso, i fissi sì, ma i 4 di 10 della Powerful Charge no. Perché? No, la Powerful Charge è un attacco che fa 4 di 10 più 19. Ah, ok, allora sì. Ma scusami, ma sei sicuro che non ha colpito questo? Non sono neanche. In più. Oh, non credo che abbia colpito uno con 25. No. Ma scusa, 21 e 4, 25 più 2 di caca, 27. No. Più haste i tuoi due? No, ho già contato. Ah. No. Allora, sono 8, 2, 10 e 10, giusto? Sì, sì. E 10... Diciamo che 0. No. 20, 24. Allora, hai già contati tutti? Sì. 24. Più 9 e 6. Allora, 24 più 9, quanto fa? 24 più 6 fa 30. Grazie. 30, 40, 30... 49. 49 più... Più 20... 21 per 4. Più 30... Quanto fa? 38? Sì, sì. 49 più 38, 19 per 2. Quanto fa, ragazzi? Fai che è 50. 38, più... 49 più 38. 88, 71, 82, 87. 87. Si può fare. 87 danni. Ragazzi, cioè, sono discalculi così per fare i conti da me. Siete veramente vergognosi. Basta, non faccio più niente. Ma come, non lo attacchi tu? Non lo so perché lascio a bacca, scusa, se non è morto. Sì, adesso tiro uno, vedi, che col cazzo è proprio. Perché è morto? Cioè, non so se hai notato quanti danni gli abbiamo fatto. Ma già gli hai fatto tu. Tu gli hai fatto. Ah, ma se non è morto il mondo, siamo bacca, ho detto, no. Ma che cazzo ha fatto? Tu perché fai così tanti danni? Perché io avevo 6 attacchi. Perché fa 4 di 6 in più su ogni attacco, lei. Perché tu fai 4 di 6 su ogni attacco? 3 o 4. Perché non tiri i dadi? Che sta col master. Qua, è molto più bello. Sì, perché lui mi ha tolta. Ci metti il tempo. Un sacco di tempo. Magari. Anche noi usiamo i dadi quando eravamo livello 17. Io mi sono lamentata, 14. Ma... bello 4... No, 8 dadi da 10 più 38. Non è male, eh? Se ti piace tirare i dadi. Mi sono divertito. Sì, la prossima volta faccio un Emily. tutti quelli che hai fatto uno solo hai colpito. Peccato che hai colpito uno. Se vabbè, però hai crittato. Hai crittato. Sotto uno tocca a te fare. Bene, ma morto no. Un attimo. Cazzo. Tiro a indovinare, sì. Invece no, ha un PF. Magari è. Sì, è morto. È morto, sviene. Perché? Perché si rigenera. Quindi ho spaccato un Gaudiga. Bravi. Ricchi premi e Cotillon. Sì, ci aspettano. Ma siete stati bravini in effetti, eh? Bravi. Beh, qual è il prossimo avversario? No. Mi piace. piacere che no. Beh, sono io quello che gli esigere trattativo o sbaglio? Beh, su, via. Beh, dai, d'altronde lui non ha neanche attaccato, poverino. Gli prudono ancora le mani a Baka. Vi svelerò dove si trova un nemico molto, molto interessante. Però sì, ma stai parlando di un tesoro prima. È lui il tesoro. Ah, ci siamo capiti male, forse. Faccio un po' di intimidire. Mi dispiace per il malinteso, ma faccio un po' di intimidire. Mi pareva palese, ogni volta che sconfiggevate un mostro ne arrivava uno più forte, cioè il ricco premio finale non poteva essere che il mostro più forte la sconfigge. 35, poi di intimidire. O cacci fuori i soldi o ti ma se non c'è lui, è una voce. Vabbè, vabbè, fa niente, cioè, una voce. Con la voce parlante tremo a tutte le minacce eventuali che mi faranno in futuro. Comunque, 35, non puoi ignorarlo così. Devi fare un po' di contatto saggezza. No, tu è contro una DC vista. No. Comunque lui è pazzo, quindi non mi frega niente da intimidire. Esatto. Tu intimidire. Adore proprio. Davvero? Lui particolare. E dove si trova questo nemico? Non sai, non sai che il CR è lui. Visto che ha domesticato un Taspi, potrebbe anche essere portino questo qui, eh. Eh sì. Non sono abbastanza intelligente per questo. E dove si trova questo nemico? Si trova su, ma non ve lo posso rivelare in effetti. Ma come no? Abbiamo perché se non sapete chi è, non posso rivelarvelo. E chi dice è? Chi è, poi rivelacelo. Fa una piega. Ti abbiamo messo in un impasse. Può darsi, ma insomma. Vabbè dai, visto che avevate capito che vi davo qualche ricco premio in senso denaroso, vi dirò dove è qualcos'altro, perché quel mostro lì in effetti è forse è troppo imprudente, se non sapete neanche di cosa si tratta, mandami incontro di lui. Sta cercando di farci psicologia inversa per metterci curiosità su questo mostro. A me non attacca niente, qualsiasi cosa ci sia. Allora, c'è un negozio abbandonato nella strada sulla quinta. Ma è sempre su questo isolotto dove non arrivano le ombre. No. Sì, ma cioè, ci sono altri luoghi dove non arrivare le ombre, ragazzi miei, cioè, se voi state in mezzo alla strada è ovvio che vi assaltano. Basta tipo? Che state, quali luoghi? Se state un pochino defilati sulle strade secondarie magari... Cioè, ah! Sembrava... Spiegai ai miei compagni. Grazie. Zitto, grazie. Tu non consigliavi di andare nelle strade di filate, tu consigliavi di darti la gamba. Tu sia chiaro. Di non entrare. Esatto. Sia chiaro. Beh, ragazzi, non so voi, ma abbiamo una missione, forse... Tutto lì c'è un negozio abbandonato. Questo è il nostro premio per aver battuto questo orsone. L'orsone scompare, intanto. Non ci rutta niente. Beh, non sapete quello che c'è nel negozio. Comunque, cioè, non è che c'era una garanzia o qualcosa. Non è che era un torneo ufficiale, nessuno ha firmato niente, quindi fatti vostri. Ok, spargeremo la voce della tua poca affidabilità. Chissà, magari se tornate qui e sapete dirmi qualcosa su questa questione che c'è in mezzo, così. Ah, è così cosa? Ah. Potrei dirvi dov'è. Cioè, se scopriamo informazioni su questo fosco nemico... Io vi posso dare più informazioni su di lui e dirvi come sconfiggerlo, magari. Ah, ma sarebbero già sconfitto? Bravi. Non ci torno in tasca niente. Quindi non ci torno in tasca niente in quel caso, quindi che senso ha? E puoi dirci perché non puoi svelarci nulla senza che noi lo conosciamo? Troppo pericoloso. Se non fai niente inutile neanche provare. Non avrai mica paura, vero? Io? No! Assolutamente no, sto a pensare, io non ho paura di quella bestia. Perché sei... E non dire mai più che io ho paura di lui. Secondo me sono cazzo. No, zitto. No, Baka, le persone che non si fanno riesco. Baka, cacci, ho detto. Stupida cucina parlante. Lascialo stare. Sembra già debilitato per conto suo. Forse. Va bene, allora faremo un salto a questo negozio di oggetti magici abbandonato. Beh, forse non sarebbe il caso di chiedergli anche del campo di magia. Quale campo di magia? Non sai niente. C'è un campo di magia intermittenza qui. Non hai notato l'oscillanza? Ma sì. E tu sai che... Non è così ovunque. No. Tu sai che... È un po' che sono qua dentro. Ah sì? Si vedeva. Ma non sai da dove. Non parlo con molte persone. Anche perché la registrazione l'ho fatta dopo un po' che non parlavo con altre persone. E comunque. Ho capito. Le ombre non parlo. Secondo me fa registrazione perché hai paura. Questa qui sempre è una registrazione, certo. Interattiva. Un po' troppo interattiva per me questo. Ok. Devo farlo anche noi. Se ma posso lanciarmi sì invisibility? Sì, certo. Cioè, me lo lancio. Ok. Non vedi nessuno attorno. Ok. Quantomeno comunque si tiene nascosto anche se invisibile. Certo. Probabilmente usa uno strumento per amplificare la voce da lontano. Posso fare comunque una prova di perception. E guardare lontano. Tipo... tipo occhio che sono 11. Lei fa tanto di perception. No, così poco non vedi niente. Ok. Ma se lei non vede invisibilità. Lei non vede invisibilità. Ah. Faccio anche io prove perception. Ma se non vedi l'invisibilità. Vedete l'invisibilità. Lei. Ma siamo sicuri che e Eleni fa una prova di spellcraft. Vuoi provare? Fare il spellcraft per capire qual è, diciamo, l'oggetto. L'oggetto magico. 35. 35. Beh, ma sono Ghost Sound. Quindi Young Agent livello 0, vedi. Sì, ma negli edifici vicini, nessun segno strano. Strani, le ore. 40 invisibilità, okay. Che stai fermo. Quindi, con 35 è sotto il minimo. Più 40. Sì. È una persona invisibile, è difficile da beccare, se ci pensi. Magari non è invisibile seriamente. I miei cosplay della fiera sono invisibili. Sono invisibili. Va bene, allora indicaci dov'è questo negozio. Ha detto che è sulla quinta strada. Andiamo sulla quinta strada. Abbiamo modo di capire dov'è esattamente? Sì, si è capito più o meno quello che intendevo. Indicaci una strada. È sempre su questa isola. Ha detto che è sull'isolotto senza... È sempre su questa... Non c'è rischio di incontrare altri tuoi... creature. Giocattoli. No, non c'è nessun rischio, mamma mia. Davvero questi figuoni hanno sconfitto... Senti chi parla. Quello che ha paura del mostriciato sulla quinta strada. Pa pa pa pa. Non ho capito, cioè, vabbè, non bevo tutto tanto, cioè. E... anche questa, andiamo, sì, sì, vabbè, andiamo, direi andiamo senza dobbiamo curare esitare. Eleni è molto ferita. Ah sì? Ah, è vero, non le sono non letali, basta che riposa due minuti e si riprende. Ah, perfetto, ah, okay. Allora ah, andando non letali tutti. Lasciamo ad Eleni il tempo per riprendersi, ha subito molti molte ferite. Questa era Eleni. No, ero io, scusa. Ah, ok, eri tu che emulavi Eleni. Oggi non è molto loquace. Ah, sono piuttosto stanco. Come mai? Ho usato parecchie energie vanamente contro questi... Io ne ho. Sono ancora... Vanamente. Guarda che East, cioè... Hai fatto fare un attacco in più a tutti, cioè... No, no, certo, però potevo risparmiare un messaggio. A me due attacchi in più. Il Summon Monster, però almeno ho fatto un po' di danni per una volta. Dai, è stato divertente. Ma che invece non ha... Neanche se ho usato un minimo della gamma della sua forza, il mostro ha cruto sui piedi. Mm. Il mio solo sguardo intimidatorio fa crollare le montagne. Ok, tanto mi tolgo gli sperperato. E va bene, allora ci mettiamo in cammino. E quinta strada sia, il monaco sta davanti. Nel giro di una decina di minuti giungete a quello che... giungete a... aspetta, c'è qualche nome. Non l'avevo scritto. Giungete a una... a un edificio non molto grande, che presenta fuori un'insegna malandata con scritto l'Emporio di Asmodeus in Suli. Ah, Asmodeus. In Suli? Quindi lo capisce lui? Sì. E credo anche Avram, che ha tipo 80.000 gradi in linguistica. Ma l'hanno scritto anche sbagliato. Ci si può sedere? Che linguistica mi pare rientri in Spellcraft, quindi ho tipo 25 gradi, tipo 14 gradi più o meno, perché ha parlato tutte le lingue del mondo. Comunque in Suli. Ah, invece comodo. L'hanno anche scritto sbagliato, Emporio. Bah, ignoranti. Veramente? No, non è, è sbagliato. No. Non è sbagliato, un alfabeta. Si legge Aknuranen, non Aknadenan. Ah, ha cancellato male, l'ho visto. Ma lo sapevo benissimo. Stolto. Non sai nemmeno leggere, no? Bene, lingua dunque entriamo. Mm? Dunque entriamo. Come se servisse a qualcosa a leggere. Ma vediamo, no. Allora, tu stai prima di entrare, non vediamo niente, forse. Ci spiaccichiamo con te. È un po' come tanti altri. Vediamo cosa c'è dentro. Grido dentro l'Emporio. No. Vediamo un pochissimo, faccio la corpo intimidire che dentro le impone. L'ultima volta che hai gridato a qualche parte ti ricordo che... Fate una panicatina per vedere se gli tappate la bocca prima che... Dai, sì, sì, io gli tappo la bocca alla grande. No. Sì, no. Ragazzi, 18. Ho fatto 18. Ho fatto di morire. Vabbè. Che devi fare? Grida. 18, la mia media. L'ultima volta che hai gridato a qualche parte i ragni mercanti sono saltati addosso e sono andati e si è lamentato per un mese. Ma io ho fatto 19. La città silenziosa come una tomba. Ma io ho fatto 19. Squarcia il silenzio. Così, rah, rah, rah, rah, rah. Hai presente quando Pipino lancia il sasso? Sì, esatto. Uguale. No, però più è urlato, non è un sasso. Sì, esatto. Cazzo. Avrei attirato tutte le ombre della città. Se c'è qualcuno esce. Ma qualcosa di ancora peggiore. Può essere. Sì, tamburi nell'oscurità. Tipo, non ti ricordi quei diavoli? Demoni a forma di diavolo. Va bene. Pessimi. Maledizione, entriamo e vediamo se riusciamo a trafugare qualcosa. e a trovare qualche informazione su questo temibile mostro. Ma scusami, il mostro non abitava qui dentro? No, no, assolutamente no. Lui ha detto che ci avrebbe detto l'ubicazione se gli avessimo portato delle informazioni. Ah, ho capito male, scusa. Se avessimo dimostrato di conoscere qualcosa su di lui. E quando è stato deciso questo? Non è stato deciso, l'ha solo detto. Scusami, non era te. Va bene. Comunque, se ci fosse detto qualcosa, probabilmente non c'è più. Quindi siamo a posto. Entriamo velocemente. Bacca. Sì, prego. Mi dice sempre Istaral. Tu stai davanti. Tu che hai gridato. Io ero avanti, però felice con le falche in mano. Ok, io sto dietro, sempre invisibile. Ok, entri sfondando con un calcio alla porta, pronto a ricevere botte. Ah, eccomi qua. Ma non c'è dentro nessuno. Ragazzi, non c'è nessuno qui dentro. Almeno così sembra. Per ora, dopo il tuo urlo. Sono scappati tutti. Non hanno visto la potenza dei muscoli. L'emporio sembra essere pettorali. Sembra essere già l'emporio comunque sembra essere già stato saccheggiato in passato, tutto in disordine, vetrine sfondate, chiaramente non è che esplode, era tutto a posto. Damasco. Tuttavia, evidentemente si è stato segnato questo posto perché magari c'è qualcos'altro. Chi gli ha parlato sa che c'è qualcosa di nascosto. Damasco, tu hai dei buoni occhi. Prova a fare un... Cosa vedono? I tuoi occhi da elfo? Esatto, i tuoi occhi di corvo. Sia io facciamo delle prove e venite a occhiare. Perception? Anch'io. Io spammo Sense Magic. Cerco in giro. Oh, non vedo! Eleni ha fatto 18. In totale 16. Ok, 28. Prendete quindi il vostro tempo per perlustrare bene. Sì, però possiamo prendere... Il negozio sarà un negozio ormai, quindi ci vuole qualche minuto. Aspetta, Danilo, l'entrata e c'è solo quello lì davanti? Beh, una prova di non sì, c'è stato. Qualche minuto, quindi 16. Una ventina di minuti. Quanto hai fatto? 28. Qualcuno, mi raccomando, tenga la faccia. Io faccio Sense Magic. Ok, purtroppo non sembra essere rimasto moltissimo. Tuttavia, sotto il bancone, in uno scompartimento nascosto, bussando sopra, senti che è vuoto. Sostanzialmente, quindi andando sotto, scopri che ci sono delle bacchette che erano state nascoste e infilate. Dei bastoncini. Fammi vedere. Ti pareva se non avevamo sfinito dei bastoncini. Che cazzo c'è pieno di legno? Posso qui, servire no? Ad Abra? Vado avanti a cercare. Posso vederle? No, questo è quanto hai trovato. Ah, fine. In generale. Dobbiamo fare un'altra ricerca qua. Allora do le bacchette. Quanto hai spellcraft? Posso fare una prova per identificarle? Sì. Che 15. Cos'è spellcraft? Sì. Quanto hai? Io sono 25. Vabbè, allora lo fai tu. Ho fatto uno, ma faccio comunque 26. Ok, ci sono tre bacchette. No, scusa, quattro bacchette. Tre di queste sono facili da identificare. Sono... Ma devo fare una prova per ogni bacchetta? Non so. Ah, sì, scusa. Avevo fatto uno. Vabbè, 15. Fatto uno. 18. E 5. Quindi... Vabbè, non hai detto per quale facevi quale, però. Perché tre erano uguali, però. Vabbè. Ah... Come vuoi. Vabbè, facciamo che me l'ha salto il primo e il secondo, quindi che era 15, quindi le identifichi tutte. Ok. Le prime tre bacchette sono delle bacchette di Infernal Healing. Ah, utili. Cosa fanno? Curano tipo un PF a round per tanto tempo, per un po' di tempo. In effetti no, cazzo. Per il round, per pochi round. No, un minuto. Forse dura un minuto. Ah, minuti? Durò, no, un minuto. Ricontrolliamo. Un minuto comunque, quindi. Dopo controllo l'essere inferno lì, mi pare che duri un minuto. Ah. Tondo. Cioè, non si può dire niente. Infernal. L'essere. Sì, certo. Mentre la quarta è una bacchetta di Haste. Ah, queste qui sono tre. Che figo, Wand of Haste. Che figo. E tanto tu lo fai già Haste. Però. Beh. Ma Caster Level? Ma la bacchetta la posai chiunque? Chiunque abbia spellcraft. Caster level 5 quindi, comunque, buono. Ottimo. Chiunque abbia utilizzare oggetti magici o conosca Haste. Quindi, entrambi i casi, io e Eleni. Bene. Beh, ti sono utile a qualcosa con i bastoncini. Che molto, molto utili, Baka, più di quanto tu possa comprendere. Ok, fine della cosa. È vero, non è così. Vai a scuola e poi ci sentiamo. Non serve andare a scuola. La scuola l'ho demolita perché fa parte dell'impero. L'hai visti i quattro triceratti? Quella è scuola. Bam. Sai cosa mi faccio con i triceratti? Non mi sembra che tu abbia dato molto contributo in questo turno. La mia sola presenza è stata d'aiuto. Infatti erano tutti molto incazzati quando combattevano. Si sono ispirati a me. No, era il mio incantesimo rage. Ti sei confusa? La magia non esiste. Questo non so ribattere a questo, scusa. E fa male, la magia del diavolo. Neanche questo. Bene. Andiamo qui, abbiamo fatto, non c'è nient'altro. Nessuna informazione, pergamena, cose interessanti dalle giucchiare. Porte, mappa della città. Bottega, retro bottega. Che... Esatto. C'è anche scritto bottega. Come disattivare il campo magico. Step 1. Esatto. E passo per primo. Poi è cancellato questo. Questo è cancellato. Entrare nella città. Però resta cancellato, purtroppo. Oh. Ragazzi, sono cose di utile. Ti porto il pezzo di pergamena. No, purtroppo è cancellato la parte che ci interessa. L'altro l'ho rotta. No, mi spiace. Mi sono subito soffiato il naso. Ok. Scusa, che cosa fate? Che cosa facciamo? Beh, voi parlate sempre con un tizio invisibile, ovviamente. Voce! Qualche io, 20 minuti ci avete messo. Voce! Allora non più. Ma tu cammini o voli? La voce non vuole di base. Magari pensavo fosse tutta l'isola, cioè nel senso, per semplificarsi. Quindi non c'è nient'altro? Pare di no. Pare che potremmo andare nei negozi di fianco. Magari. Un attimo, qui abbiamo finito, forse ci conviene uscire prima che le ombre convergano qua. Perché avremmo come libro venire qua? No, per nessuna ragione. Appunto. Che nessuno ha tirato l'attenzione su questo posto. Sì, spostiamo. Vedete una prima ombra che fa capolino, che prende il bigliettino per sgozzarci. Avete visto, eh? Ok, usciamo e ci dirigiamo verso. Prima, l'edificio accanto, non lo so. Io andrei all'edificio accanto. Cioè, è possibile che. Ma no. Vabbè, diamo un'occhiata in questa strada se c'è qualche edificio interessante. Sì, c'è qualche edificio interessante? C'è una locanda. Sulla stessa strada, distrutta, ovviamente, diroccata. Sì, diroccata, ovviamente. Allora si chiama la pancia del verme. Ragazzi, perché non ci fermiamo alla pancia del vermo? Non mi sembra molto ospitale, non più, quantomeno. Non per dormire, ma potremmo trovare qualche informazione. Sì, la pancia del vermo. Magari in vecchi archivi che potrebbero dirci qualcosa sulla può essere. Sulla civiltà Suli che abitava questo luogo. Quantomeno sulle sue abitudini di bevuta. O sulle attitudini fiscali dei suoi locandieri. Cosa molto utile. Non è vicinissima. Una volta ho letto una tesi. L'avevate vista mentre arrivate qua, diciamo. Ah, cioè, non è proprio vicina. Ci mettete sulla strada principale. Ok, quindi è la tipica locanda che hai visto e ci torna. Ma chissà com'è quella locanda e poi ci torni. Secondo me la biga. Quando è sera hai fame e non sai dove andare. Ok, e allora andiamo. Sulla strada principale vuol dire. No, non è sulla principale, era su quella che avete fatto. Sempre sull'isolotto, diciamo. Sì, sì. Ci andiamo. Va bene. Secondo me la biga deve essere fantastica quel posto. Prego. Ci andiamo, vediamo. Baka, entra. La porta è sfondata completamente, quindi non c'è bisogno di aprirla. Baka, è già passato Baka? Beh. Il bancone è là, cioè, i tavoli sono per lo più rovesciati. Controllate le spillatrici se è rimasto un goccio di vino o di birra. Ma c'è più che altro di birra, però vabbè. Ma tuttavia sembrano essere state svuotate da tempo. Ecco, vedi le cose. O quantomeno sono intasate, non fuorisci. I bastoncini. La dispensa chiaramente è vuota, oppure contiene poco, contiene marcito da tempo. E... Tuttavia i letti sembrano essere stati risparmiati e diciamo che c'è anche una porta sulle stanze. Possiamo farla nanna? Potrebbe essere un'idea. Ecco. Tuttavia, tuttavia quando... e fate la prova di perception. Non la faccio. È peggio di qual è la tua GA? Eleni fa 23. Io faccio 13. 13 anch'io. Tiro io sempre... faccio 33. Brava Damasco. Okay. Tu? Perché è lei? Tu senti un ronzio molto debole. Cioè, infatti, gli altri non sentono. Ronzio ancora. Animale o meccanico? No, animale. Perché? Dai. E da dove proviene? Proviene dall'alto, dal soffitto. Nel senso che è questo soffitto, soffitto sopra dove ci sono le camere? Vostro, guardavo, di alzare la testa. Io mi spiaccico a suolo e faccio segno loro di guardare sopra. Ma non sei prona, nel caso di eventuali battaglie. E ci fai notare questa cosa? Sì. Alziamo lo sguardo? Alziamo lo sguardo. Ok, fatto una prova di perception con un più 5, direi, in circostanze. 10 più 5, 24. 22. 26, 32. Io sia mezzo corpo. 32 da 2 di 5. Un piccolo essere, non è grande. che si nasconde tra le travi della, della locanda. Sì, qui sul soffitto. Quanto è grande? Più o meno. Piccolo essere? Sì, una patosta di essere. Una ventina di centimetri. Che cosa è? Come fatto? Non, vedete, non riuscite a distinguerlo bene, ma come vede che. Come nota che. Lo stiamo guardando. Lo state guardando? No, non mi attacca. Scende giù e dice: ah, vabbè, ormai mi avete notato. E allora? Fai la stessa voce? No. Ormai mi avete notato. Che prova? Di arcane. No, scusa, religioni. Tutto prova. Ah, religioni 6 più. Tutto sommo, tipo 13. La Giulia fa 14. Ok. Scusa, ce l'ho, Religion 18, quindi 24. Ok. È un demone, è un diavoletto molto comune. Sì, cioè, non so se è un demone o un diavolo, no. È un accuser. Ah, un accuser. È il diavolo, se non sbaglio, il diavolo accuser. Cosa sì, fai? Sì, è tipo, ma è tipo un bambino con le ali di mosca. Sì, esatto. È quello che aveva mandato. Sì, quello che evocava Teofilo. Quello che si manda in giro a esplorare di solito. Lega Uba che mi ha detto. Non mi sembrate dei cultisti delle ombre o dei non morti? Scusa? Cultisti? Di cosa stai parlando? Di che parli? Sono un culturista io, come? Mi hai conosciuto? Lui è culturista, ma che sono? Come al solito mi lascio sfuggire troppe cose. Dai su, meno reticenza. Come ti chiami? Parlo io. Sono io il face di gruppo. Va bene. Tu puoi farmi la spada se vuoi. Ok. Ti sfondo il palestra. Wingman. Tu lo conosci, Bacca? Il mio nome non ha molta importanza. Beh, però per pagare le pecede a chiamarti con un nome piuttosto che bambino sarebbe mosca. Magari c'ha 110 anni. Che siamo bambino o mezzo mosca. Ma tu sei il Facebook. Anche queste informazioni sono preziose. I nomi sono importanti. Non darei il mio in giro con tanta. Lui si chiama Bacca. Forse te. Ah, l'ho già detto lui. Cazzo. Arriva già detto lui. Dipende quali nomi. Posso fare una prova di spellcraft per capire se si sta riferendo a qualche forma di magia basata sui nomi? 17, ma sì, forse... verosimilmente sì. Cioè, ha paura magari che gli danno anche un nome falso, potreste risalire al suo vero nome. Ah. Perché sai, mio caro... Come posso chiamarmi? Ma potete chiamarmi... Lo spelling di Bacca è B-A-K. Perché lo spelling? Beh, come potete chiamarti? Ho detto Zot. Zot. Beh, Zot, sai, siamo noi siamo Zot. Qui e c'è una certa vocina che sta cercando un certo mostro che vive un paio di capanne più là. Non lo sappiamo. Sì, ho presente. Non c'entri niente tu, visto che siete solo l'unico due esseri viventi probabilmente qui, se tu non sei. No, qui. Beh, non siamo gli unici, ma... Non sono gli unici? Ci sono altri. Potrei rivelarvi qualcosa, visto che sembrate completamente ignoranti su questa città. Ehi, chi è ignorante? Tu. Beh, dunque... Sì, ma è ignorante. In realtà, se ci devi, in realtà se ci devi rivelare qualcosa su questa città, la nostra prima preoccupazione non sono certo questo mostro, ma piuttosto qualcosa sul campo antimagia. Antimagia che capisco. Che sono le cose che ci interessa di più in ogni caso momento. Prima sarei interessato a conoscere il vostro scopo, diciamo, della visita, chi cavolo siete. Siamo qui per salvare un gruppo di tirare fuori un tappino. Beh, perché tu chi sei? Il padrone della città? Beh, sono io, siete voi quelli che cercate informazioni o sbaglio? Beh, se vuoi ti sgozziamo e poi ne riparliamo. Sì, e poi chiedete informazioni, mi sembrano... Al prossimo che incontrerò! Una prossima linea di approccio. Visto che è la prima persona che incontrerò in città, mi sembra... Non pazza, a quanto ho capito, tra l'altro. Sì, quindi... No, comunque l'altro non l'abbiamo neanche incontrato, cioè... Quindi lo conosci? Ci ha solo evocato un mostro in faccia. Ho già detto di sì. Puoi dirmi il suo nome? No. Allora ti uccido. No, Bacca, non lo uccidi, seduto. No. Ci sono! Hai una capamontis che è gigante, lo sapevo che pensavi con me. No, ma sarei felice di averla. Ma, e se nella voce fosse il mostro che diceva di voler conoscere? Perché è pazzo. Ma che cavolo, dai, ditemi la vostra. Ha paura di se stesso? Può essere. Beh, io conoscevo un tizio che parla con se stesso, è molto simpatico. Sì, in un'altra campagna. Non è detto. Allora, qual è il prezzo? Scusa, hai detto che vuoi sapere qual è qualcosa di noi. E... Il motivo della vostra visita, principalmente, da dove venite? Potremmo Beh, sostanzialmente questo campo antimagia ci ha interrotto il viaggio, quindi... Allora, se c'è una sedia, mi siedo, in quadratura, tipo, sul terzo, e faccio, tipo, documentaristico. No? Hitchcock. Siamo qui perché siamo... Allievi. Durante il nostro viaggio, la nostra nave si è fermata a causa del campo antimagia. Esatto, lui scrive. E purtroppo la velocità della nostra nave accumulata durante i periodi in cui la magia funziona non è abbastanza per farci sfuggire al campo, e ci siamo immessi in una spedizione per cercare di quantomeno, diciamo, sopprimere questo campo per qualche minuto. Perché? Ok, sì, ma lo scopo del vostro viaggio, cioè perché vi trovate in questa zona, nel deserto? Veniamo da molto lontano e stiamo cercando delle ricchezze. Beh, una prova di bluff. Beh, non è bluff. Falso. Sì. Beh, è vero. Sta nascondendo qualcosa, quantomeno. Mm. Vabbè, ok. 16 più... Più tanto. Sì, bastardo. 24. Lì perception somma tanto. Sì, ho capito, non è... Non è falso. Vabbè, però è... 39. Comunque lo starà girando, cioè sta rivelando... Sì, certo. Sta cercando 39. Di omettere delle cose importanti. 39 non ce la può fare. No, di puttana. Ok, non riesce, cioè riesce a ingannarlo, quanto pare. Ricchezze. Molto esatto. Lontano. Lontano dove? È tutta roba che devo riportare. A lui scrive, infatti. Sì. A chi lo devi portare? Beh, al signore diavolo di questa zona, mi pare ovvio. Non hai visto le corna? Io gli direi, però tu lo sei, tu sei bacca, io non ti posso comunicare. Noi abbiamo già contatti con un signore diavolo a cui ci devo un paio di favori. Possibile che sia... Beh, da quello che mi avete descritto venite da Ovest. Sì. Sì, è Ovest, cioè voi state dicendo verso Est. Presumo di sì. Cioè, principalmente, nel senso, non è proprio Ovest, ma più o meno. Ok. Quindi avrete incontrato quel buon annullo di Bilaxar. Buono annulla. Riferirò questo. Hai coraggio a parlare così di un diavolo delle fosse? Quando poi ti nascondi. Finché ho la protezione del mio diavolo delle fosse. Sì, ho un buon coraggio, diciamo. È un diavolo delle fosse superiore al nostro diavolo delle fosse. Al nostro diavolo delle fosse. Io dico ammazzano tutti i diavoli, chi se ne frega. Il tuo diavolo è padrone di questa città? Sono soluzioni diplomatiche, come dovresti sapere. Vabbè, questa mi sembra un'informazione che può tornarvi utile, ma... Non così tanto, no, non è padrone di questa città, come potete intuire dalla presenza schiacciante di non morti e... E perché tu sei... Altre cose. Qui? Se sei al suo servizio? È un informatore. Stava cercando informazioni. Ci ha preso, mi ha detto. Quindi tu cerchi informazioni, una città di non morti. La tengo sotto controllo. Sempre giusto conoscere il proprio nemico. Sì, è vero. Il principio è quello. Bisogna capire quel piano. Bene, dunque... Da lontano quanto? Dove venite? Da... Possiamo dirlo. Tu, beh, io non ti posso aiutare, non possiamo comunicare. Te lo chiedo. Ah, me lo chiedi? Possiamo dirlo, secondo me. Facciamo... Cioè, non ti posso dire inventati una balla, però. Vabbè, fai una faccia. Prova a farmi una faccia e faccio un po' di... Devo fare comunque una prova di bluff. Vabbè. Fai quello che vuoi, Baka. Beh, noi... Non mi sbilancio. Veniamo dal di là del muro di sabbia. Sì, esiste qualcosa da patate di sabbia, ok? Dai, seriamente, da quale zona del deserto venite? Dall'altra parte del muro di sabbia. Non otterrete nulla in questo modo. Come posso dimostrargli che è vero? Inventati qualcosa. Perché devo dirgli una bugia che mi sta così simpatico? Accontentalo, digli. Sei un bambino, sei un Suli. Non so, ok, cerchiamo i miei antenati. No, i Suli sono tutti morti, però. Siamo tutti morti, hai visto? Quanto tempo è che non vedi un Suli a queste parti? Parecchio, in effetti, sono stupito dalla tua presenza. Ah, sai perché? Perché sono migliori i Suli. Wow, beh, questo spiega perché sono morti tutti gli altri. Non capisco se... Risate, certo. Beh, ok. Noi veniamo dall'altra parte della barriera. Tutti ridiamo, perché... Nella barriera, tra l'altro, fa molto... Bellica. Che vedete voi due? Se io ti dicessi venire dalla parte della barriera, come posso mostrarti chi è così? Se ti parlo dell'impero di Smeraldo, della leggenda del grande Baka, il regno di Baka. Il regno di Baka. Baka conquistatore. Demolitore. Non so, se avete qualche prova dell'esistenza di questo. Che io sono un corvo. Oltre barriera. Io sono un corvo, lui è... Potresti essere un qualsiasi diavolo non morto strano di queste parti. Non siamo non morti. Il nostro aspetto non prova nulla, ha ragione. Beh, le piume. Non abbiamo un qualcosa. Diciamo che se voi riuscissi a dimostrare una cosa del genere, sicuramente per me sarebbe un'informazione... Di grande valore. Di grandissimo valore, quindi potrei rivelarvi. Che ricambieresti con... con qualsiasi informazione vogliate, ma tanto dubito che la vostra sia una verità, quindi... Beh, allora, noi veniamo con una nave enorme che va, funziona da sgradite, ok? Funziona così, e siamo arrivati dall'altra parte. Anche il diavolo delle fosse, certo, che finiva il mondo quando c'era il buco. Secondo me, quando si va dal buco, si trova dall'altra parte. Quindi direi che le cose sono connesse. È normale che voi, in questa piccola anda, siete abbastanza ignoranti e non conosciate la geografia, visto la poca presenza, diciamo, di scuole. Beh, è vero che non ci sono scuole. La faccina della salita è la mia, tenerla per noi. Ma chi se ne frega? Tanto me l'hai detto tutto. Non penso che... Non importa. Se vuole farci il male, se il signore delle fosse suo vuole uccidere, ci ucciderebbe lo stesso. Quindi pace all'anima nostra. Anche se prima gli farei il culo. Sì, chiaro. Allora, una prova. Segnalo sul taccuino. Qualcosa. Sono l'ultimo Sully, probabilmente, in questa zona che tu vedi da centinaia di anni. E noi ci... Sì, questo già di per sé, il fatto che esista ancora un Sully vivo è un'informazione abbastanza interessante, quantomeno. Potrebbe essere incarnato. No, è comunque... Ma qui si diventano un moto, capito, no? In questa zona, quindi... Sì, è vero. Abbiamo qualche simbolo. Quale prova? Che non possa essere artefatta? La nostra memoria? Puoi leggerci nella mente? Penso di sì. Cosa mostrare a chi? Ma in realtà l'incantesimo, cioè, io credo che lui abbia modo di capire se tu fallisci il tiro salvezza, quindi se tu ti apri. Però è una... Io non lo farei mai. Sicuramente non è abbastanza potente da penetrare nei pensieri profondi, cioè può... Può vedere cosa è successo prima. No, non conosco. Ah no, sì. Cioè, sono telepati 100 feet. Telepati. Beh, se non ci credi puoi leggere nella mia mente, forse. Comunque, per chi non l'avesse mai visto, cioè, voi l'avete presente, questo è il Devil Accuser. Fammelo comunque vedere. No, è bello, Che schifo, scusa. È anche ciccione. Sì, un cicciotto. Perché stiamo parlando di questo? È un ciccio brutto. Io non ci avrei mai parlato adesso perché... Per questo mi sono messo... Avrei avuto un sacco di diffidenza. Vabbè, allora, lui è che faceva il ronzio. Simpatico, secondo me. E lui che faceva il ronzio. Sì, certo. Ora capite perché. Qualcuno di voi si offre volontario? Beh, la mia mente è troppo profonda nel essersi annientato. No, puoi farlo a me se non mi fai arrabbiare. No, potrebbero averti fatto un lavaggio del cervello, tanto sei malleabile. Sono l'ultimo Sully, quindi... Uno di voi due potrebbe essere interessante. Non credo. Io direi che il nano è un ottimo elemento. Forza, un po' di coraggio, nano, dai, hai bisogno di testosterone, avanti. Cosa consiste? Propongo il nano. Il nano o il corvo? Il nano. Cosa consiste? Forza, legge la mente. E legge basta? Sì, legge basta. No, diventi anche una mia schiava sessuale. No, ma legge basta, ti rassicuro io. I tuoi gumpi, come si sono... Cosa vorrà parlare di Spellcraft? Come si sono accoppiati i suoi? Lui è una mosca, è un bimbo. Non può fare niente, chiaro. Come non può fare nulla quella cosa lì, da una mosca e un come lo diavolo, se lo fai a distanza non si fanno problemi di così. Quindi una mosca è... fino a... no, erano i suoi genitori piedi circa, non so. Quanto hanno fatto un piedi? Partenogenesi, no, non so, esatto. 24 metri. Non ha genitori. Partenogenesi. Bacca, ok, io sto qui e tu stai lì. Ti rassicuro, io non ho modo di interferire nei tuoi pensieri. Monitorerò io il flusso di senti pensieri. Una presenza nella tua mente, ma è soltanto un lieve sentore, forse solo perché ti hanno detto che sarebbe successo. Damasco, adesso segui la mia voce. Lasci le tue barriere, esatto. Cioè abbassi le tue barriere e le permetti di entrare. Ricorda di quando eri... del tempo prima di essere catturata e del tempo alla prigione e di quello che è successo dopo. Ma semplicemente non basta il salto, cioè... Come vedi, questi ricordi non possono essere artefatti. Non avete memoria di nessun salto. Ah, già, è vero. No, nessun salto, nessun salto. Tu che ti sei inventato che il burrone corrisponde alla... È una mia teoria, è una teoria di Bacca, no? Una teoria di Bacca. Non può essere una teoria di Bacca. Sì, assolutamente. Certo. Cioè, un buco che infatti come tale è stato trattato dalla... Dai, giustamente, e PG sono la idea, poi. Vabbè, io posso come scegliere... Come giocatore confusa Risa. Posso scegliere cosa mostrarvi? Vaga. Una volta che è meglio se magari gli mostri tutto. Cioè, sì, cioè, okay, magari soffermati su certi pensieri. Nascondere. No, ho chiesto. Per scusa, lui ha modo di capire se lei si sta immaginando o no. Sì. Secondo me sì, direi. Vabbè, gli mostra dell'impiego di Smeraldo e quant'altro, cioè tutto quello che c'è di là. Questo ci vuole. Quindi, tutto quello che vogliamo, forza, sgaggiungi il tuo più sempre la forza, interessante. Dai. Baca, buono. È molto utile come oggetto. Dovrò fare te ne costruirò io uno più presto. Più presto, ma sono di parola. Sono in grado di costruire. Chiedetemi qualsiasi cosa vogliate sapere su questa città. Bene. Bene, tanto per cominciare... Come si spegne il campo che fa bbbb? Che cos'è? Chi l'ha creato? Come... Soprattutto come si spegne? Dove devo colpirlo? Fondamentalmente, questo campo antimagia è l'ultima... Doveva essere l'ultima risorsa di protezione della città durante un attacco dei diavoli. Tuttavia, non hanno proprio avuto la meglio, diciamo. O quantomeno si trattava di una vittoria di Pirro da parte nostra. Vostra? I diavoli. I diavoli. Sì, lui ha combattuto, si vede che è un guerriero, eh? Cioè, questa magia era uno strumento di protezione dei Suri dai diavoli. Chiaramente. Che ha funzionato in parte, perché è stata una vittoria di Pirro. Ah, la gente è intelligente. Tuttavia, col tempo, la macchina che manteneva questa magia è andata logorandosi e ora funziona solo a intermittenza. Ho capito. Il marchingegno, diciamo, si trova all'interno del tempio, che si trova nelle profondità del tempio, nella zona nord-ovest della città. Ah. È il più grande tempio della città, non dovreste avere difficoltà a riconoscerlo. Tuttavia, qualche difficoltà potreste avere ad arrivarci. Sì, disagio. Qualche passaggio segreto, insomma, qualche via che magari conosci tu, che sei un po' più sgamato. A questo ci arriverò, ma prima magari dovrete capire perché avete bisogno di un passaggio segreto. Beh, mi sembra chiaro. Perché ci sono un sacco di ombre che ci uccidono. Lo sa anche Baca. Per quelle basta stare lontano dalle strade principali, chiaramente. Ah, buona sapere. E cosa ci parla degli altri diavoli, amici tuoi, che ci farebbero la pelle? Un gruppo di cultisti. Sopravvissuto, diciamo, se così si può dire. Cappegosse... Devoti qualche dio? Sì, indossano dei vestiti rossi. Ah. Non so come facciate a saperlo. Io sono molto come mai incontrato. Il giovane bimbo diavolo, bimbo mosca. Comunque sì. L'intuito di Baca è leggendario, oltre il muro di sabbia. Baca è una leggenda viventi, ragazzo, poi è un autografo. Ci sono bambini fanno le foto. No, ho visto nella sua gli picchietto la mano con uno schiaffo. Ho visto la sua mente. Okay. No, grazie. Anche perché non saprei fare quello che tu non so scrivere. Ci metto una X. Esatto, X. Questo gruppo di cultisti protegge nella zona... Protegge appunto, scusate, comunque è il tuo ovest. Sì, nord-ovest. Ah sì, no, è giusto, ovest. La zona ovest della città è protetta da delle mura che sono sorvegliate costantemente da questo gruppo di cultisti e dei potentissimi golem. Costruiti decine di migliaia di anni fa, perché questo era più o meno il tempo che ho detto. E come tali immuni ad ogni forma di magia anche quando il campo funziona. Cioè, non funziona. Chiaramente. Tuttavia, pare c'è un modo per riuscire a raggiungere quella zona senza passare dalle mura e quindi di conseguenza il tempio. Parli delle fogne. Sì, più o meno, una sorta di fogne. Non le chiamerei proprio fogne. Siamo tutti leggendari per il nostro intuito. Sono dei cunicoli. Sono dei cunicoli che noi diavoli abbiamo scavato nell'antichità per riuscire a raggiungere l'interno della città. E colpire con un attacco a sorpresa. Ah. Purtroppo la loro entrata è persa da tempo ed è sconosciuta persino a me. Tuttavia c'è una persona che conosce, o quantomeno mi spiego meglio. So dove è entrata, ma serve una parola magica per riuscire a accedere. Abbiamo un amico feticista delle parole magiche. È curioso che tu l'abbia detto, perché è proprio l'unico che la conosce. E dove si trova questo nostro amico? Mi deve un paio di tesori. Non ne ho idea. È un... Sai il suo nome? Non sottovalutatelo. No, non lo conosco. Ho cercato di capirlo qualche volta, ma... Fai una prova di per sempre vedere se stai dicendo una cazzata o no. 19 più 24. Non lo conoscevo. No, sembra davvero dire la verità. Anzi, magari ha fatto questa pausa perché è un po' frustrato. Sembra che dia anche molto fastidio che non conosca. Sei un feticista della conoscenza, tu. Beh, non ho capito. Ha sentito la parola, gli è piaciuta. Bravo, Baca, impara. Grazie questo proprio. Con mio grande direi di tenere un taccuino, ma non so scrivere. Ok. Validia. XXXXX. Costui comunque, per quel poco che ho scoperto, è ossessionato dal Behemoth che è sfuggito dal suo cittadino. Sì, un Behemoth. È questo il nemico. Quindi sappiamo già. Umbeo, ma tu già senti parlare di queste creature? Ma non... Credo abbia tipo ferito qualche persona a lui cara e Brahma Vendetta da allora. Dici di più sul tuttavia è impazzito e non è. Nonostante probabilmente abbia il potere per sconfiggerlo, non è in grado di avvicinarsi soltanto per il via del dolore che gli provoca guardandolo. Ho capito. Abrami illumici. Cos'è un Behemoth? Cos'è un Behemoth? Posso fare una prova? Comunque è un mostrone a quattro zampe. 5 forte. Più? Cos'è? Vabbè, ve lo spiego io cos'è un Behemoth. Ma non sai? Sì. No, no, ma che sono 5, sono CR alti, non lo sai. Neanche come sono fatti, ok. No, perché sono tutti CR alti, quindi... Certo, certo. È vero, sono quelli che non muoiono mai. Sono molto antiche non c'è altro più il concetto è quello, penso, perché se no non ha senso come certo, certo. Non l'ho mai sentito questo mostro. I Behemoth sono delle creature antichissime e potentissime. Vi sono diversi tipi. Tipo, alcuni sono volatili, altri balene. No. Balene. Quello della strega di Sì, no? Sì, ce l'abbiamo incontrato uno. Ricordo. In questo caso si tratta di un Behemoth di terra. Uno dei più deboli, in effetti. Tuttavia, comunque una creatura molto potente. Beh, allora io dico, andiamo lì, strappiamogli la testa e portiamogli alla vocina. Questo Behemoth vaga per la città, il disperato. No, ha stabilito una propria zona di caccia, se possiamo dire così. Di cosa si ciba? Chi caccia chi adesso? Ombre! Edifici. Non ha problemi di questo tipo. La sua dieta è composta di villaggi. Esatto. E la carta del Pagong di Magic, che è bellissimo. Come un burro. Sì, come mostri, uomini, mostri, città, foreste, piccoli villaggi, piccole medie città. Esatto. È una carta bellissima. Piccole medie città. La sua dieta. Cioè, si mangia anche intere case, cioè, con legno, pieno di calorie. Ma quindi è gigante. Sì, è gigantissimo. Cioè, non aveva possibilità di uscire. Perché no? Potremmo non sottovalutare il tuo potere. Sottovalutare la mozza di Bacca. Sei più forte di una casa, ti ho visto all'opera. Grazie. Ma lei, sai quanti sono 180 danni? Sono più di quelli che ti fai cadere dalla stratosfera, quindi... Sì, ma molti di più danni da caduta sono tipo fissi. Ma a un certo punto diventa fissi. Sì. Beh, giustamente, come nel mondo reale. Esatto, però sì, qui sono fissi, ma sono pochi. Io faccio 180. Cioè, sono proprio pochi, tipo 40. Cioè, sono tanti a livelli bassi, ma poi diventano un cazzo. Cioè. Esatto. Cioè, fai conto che un suo colpo di martello, per dire, ti spacca tipo un muro di roccia spesso così. Cioè, quindi... Sì. Non so se hai capito quanto era grande, cioè quello lì comunque era grande, quello che sputava fuoco, era anche resistente. Cioè, è gigante. Bello forte. Si mangiava gli edifici. No, certo. Scusa, sono paura di quello si mangia gli edifici. Ma comunque... quello si mangia gli edifici sarà un 2-3 CR20. L'unica cosa è CR20. Ma chi, i Behemoth? Sì. I Behemoth sì, sono CR20. Se non c'è altro che volete sapere, potete... Sono CR20? Bene. Vorremmo sapere... Hai detto che non è possibile sapere dove trovare il folle, mi pare. No, chiaramente. Quindi la prossima mossa è trovare il folle, chiedergli informazioni sul Behemoth. Scusa, abbiamo detto dov'è il Behemoth, sì. Beh, possiamo anche andare direttamente al nostro Possiamo tempio. Andare direttamente al Behemoth, certo. Al tempio. Ah, al tempio. Per quello che sei qua, alla fine. Però, vabbè, ci ha detto... No, però dovremmo fare la strada più ardua. Giusto, bisogna trovare anche l'entrata del nostro... Esatto, perché appunto serve... Ah, la conosce lui, ok. Esatto. Ma l'entrata, si okay. sa dov'è, non si sa sì, attivarla? Nella banca. Si sa... Ah, nella banca? Se proprio vi interessa un po' di lore, diciamo così. Certo. Abbiamo stretto... I nostri patti erano talmente vincolanti per i tesorieri della città che hanno dovuto loro stessi scavare un tunnel per noi per permetterci di entrare. Questa, diciamo che è la somma più bassa di quello con cui sono scesi i Suli. Siete fatti di compromessi, voi diavoli. Bene. Potremmo chiedere anche... Incuriosisce? Mi ha rivelato perché c'è un po' di vanto comunque per lui in questa. Degli altri che sono arrivati. Che è riuscito a corrompere sì. Ah, è vero. Hai visto per caso. Chi c'è che appunto proprio su loro stessi hanno firmato la condanna della loro città. Per caso avevi. Per i banchieri no, perché appunto magari era la parte più corruttibile, però proprio lì è riuscito a mettere talmente marcio che cioè, il loro stesso popolo è stato distrutto dall'interno. Hai sentito il nostro amico pistolero? Cosa ha detto? Se hai notizie di altri viandanti passati di qui, un gruppo male assortito simile al nostro. Sì, sono stati catturati dai cultisti. Lo sappiamo. La perspicacia di Baca, come si dice. Quindi, tuttavia, penso che potevo fargli quella domanda. Una di loro dovrebbe essere riuscita a sfuggire. Una di loro che... Se una muove... un elfo dalle pelle scura. La morte degli altri. Ah, sì. Il troll succede lo stesso. La cannibala. Ma loro non sono morti, sono catturati. Sì, no solo senso, quando è morto uno, abbiamo visto lo stesso. Anche lui si muove un... Ragazzi... Giusto, adesso io... La cannibala è giusto. Cosa? A quanto pare... L'unico che è scappato è la cannibala. Ah, Azalea. No, meno male che la fuoco si è salvata. Penso si rifugi nella biblioteca, ma fate attenzione, è una biblioteca un po' strana quella. Perché? Abitata da creature strane, io stesso non sono ben mai riuscito bene a indagare. Sembrano venire da un altro mondo. Ti andrebbe di andare lì? Un altro mondo. Come noi? Sì. A me no. Sorrisetto. Perché non vuoi venire con noi? Hai paura? Non rischierò inutilmente la mia vita soltanto per osservarvi mentre morite. Però potresti portare il padrone delle belle cronache. Non è il tuo compito pagare? Entrerò una volta che avrete fatto piazza pulita per analizzare i cadaveri. Giusto? Non fa una piega! Se fossimo noi i cadaveri non potreste... E i vostri cadaveri? Nel caso nulla sarà cambiato rispetto alla situazione attuale. Infatti. Analizzare i vostri cadaveri. Ma non avreste impatto niente. Non è che ci sia molto movimento qui, mi sembra. Signor Moscas, ci sta a dire qualcosa di più? Sugli oscuri nemici da un altro mondo che si trovano lì. Mi sembra una definizione poco nemici, concia. Insomma, non sappiamo. Sì, certo. Se siano ostili o no. Oscure creature. Qualcosa sul loro aspetto oppure sulle loro abitudini? Ho visto dei fuli ancora venti, ma non percepivo della vera vita in loro. Era molto strano. Paghetti! Ma sono... Non morti? Posso fare una prova? Per capire a cosa si riferisce? Sì, però difficilmente direi. 19 più? 19 tirato. Su che cosa? Cioè, dipende che conoscenza è. Ma guarda, direi comunque che è impossibile che da così poco tu possa risalire a qualsiasi cosa. Cioè, nel senso... Ok. Potrebbero essere posseduti, potrebbero essere delle copie, potrebbero essere... Beh, comunque qualche opzione me la raffiguro. Sì, sì, sì. Potrebbero essere i particolari non morti, soggetti a cose, per quello che è troppo vago come informazione. Ok. Quindi... È troppo vago, non riesco a dirvi niente sul punto. Cioè comunque vai idee in testa. È avvicinato ai dadi. Magari quando... No, non si stava tirando. Era coperto là. Magari quando li vedrai tu stesso potrai dire di più. Certo. Tenendo il 19, magari. Ok, allora direi... sei stato utile, ma qualcosa in più sui cultisti ce la sai dire? No, cioè, era solo il più vicino. Cultisti di che cosa, tanto per cominciare? Dei diavoli tuttora? Sì. Che tipo di diavoli? Perché non il tuo padrone o altri? Hanno imparato, diciamo, a evocare dei diavoli propri, sono delle sorta di sottodiavoli. Ah, dei sottodiavoli? No, mi sono espresso male, nel senso... Come posso dire, si accarezza un baffone bermoso. Ah, dei diavoli artificiali, ecco, creati con la magia arcana. Per una prova di spettro. No, in realtà si sta riferendo fondamentalmente a magie di invocazione. Sono dei summoner. Ah, sono dei invocatori. Potrebbero essere dei nemici molto pericolosi. Ne ho uccisi diversi. Beh, sta adesso di terzo con... Ace lo lancia di terza adesso con il Unchained, prima di secondo, no? Ah, in presenza, certo. Sono un po' meno temibili. Sono meno temibili, ma ognuno... Quindi mi domando, ma l'ho capito che sono dei... No. Sì. Quindi ognuno di loro si... come dirti in un altro modo. Sì. Modo certo. Uomo, quindi dico. Ognuno di loro si accompagna ad un diavolo, diciamo, proprio. Sì. Interessante. Assumono diverse forme, alcuni... Per lo più sono bipedi, ma ultimamente ho visto cose strane, anche diciamo un culto di separatisti, ma niente che vi riguardi. In effetti potevo mandarvi nel caso voleste qualche informazione in più, ma ormai, visto che ho scoperto questa cosa, posso dirvi tranquillamente quasi tutto. Sono uno di parola. Uomo? Uno di parola. Ah, uno di parola, non un uomo di parola. Poi lo ammazziamo. Zitto, Baca. Ok, non ammazziamo nessuno. Ok, molto interessante. Nella mia esperienza questi nemici, cioè nemici del genere, sono molto pericolosi, cioè che si accompagnano a delle creature evocate. Infatti io sono uno di quelli. Molto pericoloso. Mi accompagna più creature evocate. Esatto. Quattro tricerate, mi faccio così a bacca, mi sventolo le quattro. Di cui colpisce uno solo. Però fa più danni di te nella battaglia. Beh, perché non ha fatto in quella particolare battaglia. Non ha agito. Vuoi che faccia bacio di fuoco tutto tricerato, vuoi vedere chi è più forte? Non lo so, fare forse una bella lotta. Dovresti dare 28 di forza tricerato. A 28? Sì. Hai già guardato? Lo so. L'hai detto l'altra volta. Ah, ok. Se non sbaglio. E allora vinci tu. Ecco bene, quindi sei se non lo baffo. Braccio di ferro. Se no, un cos'è che volevo dire? Ah sì, forse sarà meglio passare dalla biblioteca. Dai, di forza. 31, se non sbaglio. 31. Ho solo quello. Perché io sono Wisdom, non c'ho 22. No, c'è anche destrezza. Sì, ma per alzare la forza... In 3000 prende più 6 la forza. Cioè, in realtà io 25, quando vado in nero 31. Però ho 12 di intelligenza, 12 di saggezza, 8 di 12 di intelligenza hai? No, 8 di intelligenza, 12 di istituzione. Okay. Sì, vabbè, comunque non, è, non ci interessano i tuoi titoli. Le tue statistiche. Le tue statistiche di Baca. Le statistiche di Baca. Esatto. Le statistiche di Baca. Gli exit poll danno Logan. Non ci interessano. Sarà meglio passare dalla biblioteca. Zalea potrebbe essere un alleato potente. Sì. E potevo cucinarci qualcosa di buono. Poi mi incuriosi. Ti manca davvero la sua cucina? Ma quando non mangi più con lei mi sento più debole. Manca le proteine. Abbiamo allenato troppo di verdure. Certo. Che ne dite? Di passare dalla biblioteca. Ci facciamo dire tutti i posti dove. Facciamoci sono. Dire più o meno. Sì, quanto è vicino alla biblioteca, quanto è vicino. È abbastanza lontana, però. Prima consiglierei magari di riposare in questa locanda. Se è sicuro questo posto? Per quanto può definirsi sicura la media di questa città. Tu dove riposi la notte? No, però sì. Beh, no. No. Tu dove riposi la notte, mio giovane? Io non riposo, sono un diavolo. Lui può fare così e arrivare nel regno degli inferi. No, infatti boh, stavo pensando che magari per i diavoli, magari dicendo qualcosa sul fatto che sono creature multi-essenza, certo. Possono teletrasportarsi perché... Che in effetti proprio ci pensiamo magari. Ci pensiamo, sì. Perché, cioè, in effetti è strano che un diavolo non si può, un demone non si può teletrasportare, deve camminare o volare, cioè... Sì, se perde un po' di pathos, però vabbè, ci pensiamo. Che demone è? Ma... Ovviamente per altri magari vi sta per loro un po' meno. Sì, vediamo. Ma comunque, tu non recuperi, non hai bisogno di recuperare la tua forza magica ogni tanto dormendo, riposando? Io sì. No, lui. Ah. Il diavolo mosca. Non so come funziona. Sono tutte spellate abilitate, cioè, quindi non lo so. Forse potremmo riposare qui. Riposare qui sarebbe una buona idea. Può anche stare sveglio, nel senso, cioè lui basta che non combatta. Certo, certo, riposarsi e basta. Avrei bisogno di recuperare le mie abilità zen. Anch'io. Forse un po' di riposo potrebbe farci bene. Ho bisogno di un po' di sano studio. Almeno un'oretta, però prima ho bisogno di riposarmi. A me serve la notte. Anche a me. Potremmo... Quando è che avremmo detto che abbiamo detto a Jung che saremmo ritornati? Ma non c'era un tempo perché. Non aveva un tempo. Ah, forse sì. Sì, perché sennò lui sarebbe partito a un certo punto. Vabbè, un bel po'. Però un bel po', cioè comunque. Quanto era? Mi ha dato un bel po' perché è proprio una situazione disperata. Una settimana. Cioè lui. Una settimana. Tanto perso per perso, cioè nel senso. Non benissimo, non si trova benissimo. Sì, lui probabilmente è attaccato alle bombe in questo momento. Cioè, vabbè, però Jung. A poi non tira uno. Sicuramente... Tranne quando si fa prendere dei fulmini. Esatto, a parte quel chi caso può tenere bada se non c'è, voi sicuramente non si farà prendere fulmini perché non ti ha nessun dado, quindi che pippa. Forse potremmo posare qui, possiamo sprangare la porta, possiamo fare dei turni qualche... più sicuro che sprangare la porta. No ragazzi, ho un'idea migliore. E chi bravani. No aspetta, magione sì, infatti magione cioè solo che evocare lui in questa magione. Sì. Però io spango comunque la porta. E non ci può trovare nessuno lì dentro. No, si può trovare. Però Si può trovare, ma non puoi entrare. Allora. Io comunque spango la porta. Eh no, quindi posso aspettare fuori e farti. Vabbè, ok. Pestarti. Però è invisibile comunque. Io spango la porta per sicurezza. Però io per ora non dico niente perché preferirei che non ci vedesse lui. Non sappiamo se sì. Le sue intenzioni. Preferisco avvicinarci di più alla biblioteca e dopo. Vedere di trovare un modo per riposare. Però forse ci conviene rimanere anche qui per parlare del Behemoth, nostro amico invisibile. Sì. Non vuoi avere un altro amico. È difficile trovarlo il nostro amico invisibile. Comunque Azalea sarebbe un amico. Cioè. Sì, potremmo, diciamo, andare da questo qui, dal nostro amico pazzo, poi andare alla biblioteca. Capiamo quante sono, cioè, quanto c'è, cioè, tipo. Le distanze. Il mostro è tipo la strada per la biblioteca, una cosa del genere. Oh. Cioè. Sì, in parte sì. Però. Ah, cioè, possiamo aggirarlo. Sì, esatto. Mm. Ok. Invece la biblioteca è molto lontana. Sì. Ma il mostro, tipo, se ci vede, ci attacca. Loro, presumibilmente, se entrate nella sua zona, vi attaccherà. Allora, consiglio. Però non è facile, la sua zona è diventata sempre da un isolotto. Quindi, possiamo andare su quell'isolotto. Invece, è più vicino l'isolotto del pazzo. Sì, quello sì. Allora, consiglio. Noi siamo ancora sull'isolotto del pazzo. È lo stesso, anzi, infatti. No. Noi siamo sull'isolotto del pazzo. Sì. Allora, possiamo andare prima da lui e vedere se ci dice qualcosa di più. Giusto. Ora che sappiamo il suo nome. Questa è una buona idea. Gli abbiamo detto molte cose. Va bene, andiamo. L'accuser mi ispira fiducia, soprattutto quel tipo 35 che hai fatto su Sense Motive. È vero, ma andiamo. Se qualcuno... Potrebbe essere utile, non indicarsi il diavolo della no, forza. Esatto, però... Cioè... Bene. Andiamo, andiamo. C'è qualche altra informazione che possiamo chiedere al nostro amico? Quando uno dei tuoi amici muove... Ah, è una cosa. Tu per caso vedi la sua vita. Come si disattiva la macchina. Ah, ok. Interessante. Sì. No. Ok, certo che no. È normale, no? Bacca, certo che no. Annoto sul taccuino. Che domanda è? Che domanda è? No, perché a noi è capitato. Scusate, ragazzi, bisogna dire le cose come stanno. Ma magari l'ha visto comunque dalle sue vestite. Silenzio. Cazzo ti fumi, Bacca? Io non fumo. Facciamo una prova di blef per il cazzo ti fumi, Bacca. Ho fatto 14 e non l'ho superato. Cazzo ti fumi? Assolutamente. Che roba, ma stai mentendo? Che roba assurda. Non c'è bisogno di mentire. Assurdo. Non è una bugia. No bugia, verità, ok? Faccio qua per capire se vuole che faccia qualcosa. Ah, sì! Ho capito. Non è una bugia. Va bene, basta. Come si disattiva il congegno magico prima di andare? Tipo la caos. Lo si spacca. Ah, e vai! Tecnica fatta. ci avevo ragione. Sapevo che avrei fatto contento quello lì. Sì. Cosa ti ho detto? Andiamo lì e lo spacchiamo. Quindi chi aveva ragione? Avevi ragione tu, Baka. Grazie. Potevamo fare a meno dell'accuser. E perché non l'avete spaccato voi? Perché non c'è nessun interesse nell'affrontare un esercito di cultisti, capi diavoli artificiali. Bella risposta. Adesso che dirigiamoci verso il nostro perché amico il tempio è dentro la zona dei cultisti. Sì, per quello bisogna usare il passaggio. Altrimenti è facile, no? Scusa, vai lì, massacri tutti e poi vai. Esatto. Molto meglio. I cultisti vanno crepati. Andiamo dal nostro amico folle. Okay. Usciamo. Sì. Ci incamminiamo. Io direi andiamo nel posto della prima e dormiamo, tipo. Sì, se volete. Il negozio di te. Sì, anche. Negozio. No, ma io, scusate, perché non veniamo qua? Perché qua c'è il tipo. Capito. Beh, assicuriamoci che non ci segue. Non ci segue. Fate non di perception. Io ho fatto 5, e Giulia fa 17 più 4. Ma se copriaci le spalle. 18, 27. Ho fatto 20, 27. 28. Se scopro che mi segue, lo carico e lo uccido. Okay. 38. 27 totale. Se ci sta seguendo, non dimmelo. Perché altrimenti lo uccido. Ok. Non abbiamo visto nulla. Quanto hai fatto, scusa? 38. Potrebbe essere invisibile. Io 27. Potrebbe comunque essere invisibile. Beh, vedete che se lo becco lo carico e lo uccido. Okay. Se noi abbiamo detto ciao, ci andiamo piano piano. Quindi lui ci può seguire. Non certo. Vedete. Non mi sembra si stia seguendo. Io comunque non la voglio lasciare in vita. Mentre siamo un po' lontani. In ogni caso, anche se non sappiamo se ci sta seguendo o meno, è opportuno fermarsi. Sì. Fermiamoci nel negozio dove Baka ha tirato tutte le ombre della città. Forse meglio di no, non lo so. È un altro posto, se non è venuto nessuno. Ah sì, facciamo un controllo. È su isolotto, quindi non arriveranno molte, anche se arrivano. Esatto, facciamo un controllo. E poi entriamo lì. Allora, entriamo, guardiamo se ci sono ombre, se non ce ne sono. Sono arrivate, ma se ne sono andati in fretta per non incorrere nelle ire del... Di coso, del pazzo. Del pazzo, diciamo. Evoco la mia magione e ci entriamo. Bene. Se servi, portate un po' di buon cibo ai nostri amici e preparate i letti con lenzuola fresche. Grazie. Un tavolo su cui mangiare perché te l'ha rotto la droga. Maledizione, Bacca! Prendete delle assi e organizzate un tavolo di fortuna. Vedi che ti ridò le due gambe del tavolo, se vuoi... Sì, e le prendo. Gliele strappo di mano. Ma che rincoglionito sono. I key points che ho segnato erano sull'altra scheda. Drogato bastardo. Va bene. E isoliamo per una notte. Un pazzo coglione. Recuperando le energie. Sì. Dai, recuperate. Cancellate. Al mattino mi sono chiedo, ma... Abraham, ma questa magione si ricrea tutte le volte o è costruita veramente? Baka. Se tu apporti una modifica, non capiresti. È permanente. Potrei profondermi nei segreti della magia di evocazione, ma ok, facciamo una prova. Corro contro una parete fino a sfondarla. C'è anche una parete di sfondarla. No, cosa? Non lo faccio, non è che. Magari una non portante, una casa. Non so, possiamo fare una prova di iniziativa? Sì, sì. Sì. Ma perché faccio sempre uno? Vabbè, hai fatto 6, 11. Vabbè. Ok, ma non la spacchi subito, te la ammacchi pesantemente. Ma che diamine fai, Bacca? Poi ti fai il file, aspetta che adesso ci provo. Adesso tocca a me se continui. Sì, sì. Continui? No, faccio così, poi tocca il tuo turno. Ah, lo fai quindi? Estengo il file, come dire, posso provare? No! Ma magari si ricrea. No, se vedo che stai per colpire agisco. Ma non si ricrea la parete. Non si ricrea. Ma allora che cazzo serve sta roba? Non è infinita, è indistruttibile. Servi? Mettete a posto la parete. Però ti accorrono stavo... questi spiritelli blu. Una povera parete, ma così. Si mettono a ricostruire. E i servi sono qui per sempre? I servi sì. E se muoiono? Non muoiono. Quanti problemi, Baka. La tua mente è semplice. Critico su un servo. Assecondala. Critico su un servo. Ma hai colpito un servo? Ma stai attaccando i miei servi? Tu hai detto che non posso morire. Io mi sento in un angolo. Allora, sono dei... La situazione. Allora. Sono degli unseen servants. Ma sono tantissimi, non ti serviranno mica. Vediamo lo spell. Cosa succede? Vediamo che sto scherzando, vabbè, non farlo. Ma no, no, vabbè. Ormai vabbè, se ne perdo il tempo, no? Vabbè. Vediamo, ci togliamo il pensiero. Dai, Bacca ha ammaccato la parete della mia gratuitamente, una parete della mia casa cercando di distruggerla e ha appena crittato un mio servo. Non so perché. Per vedere se si crea. Ma poi ti faccio capire quanto è cattivo questo gesto. Is an invisible, tra l'altro, invisible. Mindless, shapeless force. Sì. Mindless, shapeless. Ma ha detto che erano lì davanti. Cioè, no. Vabbè, comunque una chance. That performs simple tasks and commands. Guarda. Cos'è? Sopra il 50? Ma non prevede che vengano attaccati. No. Sopra il 50 colpisco? 95. Sì. L'ho colpito nel caso. Guarda quanti PF ha. Sto cercando di capire. Non posso non morire magari veramente. Scusa, ma ne avrai un milione. Quanti vuoi tu ne avrai? Sì, ne ho tanti. Cannot be killed. Suka! Gli ho fatto 35 danni. But it dissipates if it takes 6 danni. 35 danni fa. Boom! Non può essere ucciso, ma si dissipa. Di grande differenza per me. Vabbè, comunque non importa. Magari questo si prenderà da qualche altra parte. Comunque l'ho fatto. Perché hai colpito un suo aiutante? Non lo vedi invisibile. Neanche tu lo vedi. Ma io ho colpito perché non c'era un aiutante. Maledizione, Baka. Beh, intanto se mi hai detto che non posso morire. Sì, ma chissà adesso dov'è Genoveffo. Hai dato anche un nome a sti cosi. Certo. Ma sono inutili. Non siamo inutili, siamo amici. Siamo carini. Cioè, ne stai attaccando un altro. No, vabbè. Ti fermo, cioè. Ma ve lo posso, quanti ne hai? Te ne hai milioni. Sì, ne ho un po', non lo so, non è rilevante. Vabbè, dai. Dopo questo teatrino... Andiamo a dormire, ci riposiamo. Almeno so che hai una maggiore sicura, no? Vai a dormire. A te la stanza più scomoda. E un'altra volta dormi sul tavolo. Una volta riposati e rifocillati dalla colazione, usciamo. Va bene. Damasco, vuoi vedere se c'è qualcosa dall'altra parte? Questo che è uscito di mattino? Sì. Mi mettino presto. Con i tuoi guanti? Io metto le mani sulla porta. Vabbè, dai, non te arrabbiare. Non c'è niente? Baca. Non c'è niente? No, niente. Esci tu dalla porta in caso di pericolo. Baca, esci prima tu. E va bene, però come siete nervosi. Ciao ragazzi! Abbiamo fatto amicizia la notte. Si ritraggono invisibili, non lo sai mai. Vabbè, io mi sono lo stesso. Aiuto il mostro! Spacca parete! Vado fuori. Spacca parete è un altro di nome, no? Oggi bene. Vado fuori. Spacca ce lo metto, spacca parete! Cosa vedo fuori? Appena esco dal... Quello che c'è quando si sente. Ah, ok, è normale. Ci riversiamo fuori. Forza, ci ragazzi, verso possiamo il folle. Sì. Cioè, nella zona dove abbiamo incontrato... Folle! Sentiamo che risponde. Ehi, caga sotto? Signor senza nome. Signor Behemoth? Ah, lo sapevo che mi chiamo. Mi chiamo... Cavolo. Non si ricorda? Sapevo anch'io. Non ti chiami ricordo. Behemoth? Behemoth, curioso che diciate questa parola. Mi ricorda qualcosa. Sì. Dai, dici di più. Una creaturina, grande. Amico tuo. Amica tua che ha ammazzato un sacco di gente che non riesce a controllare perché hai paura. Non ha paura. Secondo me ha paura esattamente come Genoveffa, altrimenti non l'avrei colpito. Tieni a freno la lingua. Io ho detto che non ho paura del Behemoth. Nessuno qui dice che ha paura del Behemoth. Io sì, e anche Genoveffa lo direbbe. Genoveffa, pace all'anima sua, lascialo stare. Ma non è morto. Comunque si è dissipato. Ma comunque ti farebbe piacere non averlo più tra i piedi. Potremmo ucciderlo. Sì, diciamo che era lui il mostro. Cosa offri? Come, scusa? Ah, era lui. Il mostro finale che ci proponevi? Sì. Il Behemoth? Sì, era lui. Carico la parola l'uccisione di... del Behemoth? Ti farebbe piacere? Behemoth? Behemoth? Non dovete ripetere così spesso la parola. Behemoth, Behemoth, Behemoth, Behemoth! No. Non mi conviene farmi arrabbiare. Non ti vogliamo far arrabbiare, siamo pacifici e vogliamo aiutarti. Chi è pacifico? Sappiamo che hai motivi per voler morte questa creatura orripilante. E noi possiamo farlo per te. Se sì, tu... vabbè, ma sembra già una buona cosa per voi tenerla di loro di sconfiggere una creatura tanto terribile. No, non no, direi. Vogliamo i money. Non direi affatto. Tu sei una creatura estremamente potente, certo. Non è quello che vogliamo da te, però, la tua potenza. Quello che vogliamo è un'informazione precisa. Una parola magica. Mi piacciono le parole magiche. Lo sappiamo che ti piace. Sì, l'avevamo notato. Ti prego, uccidiamo e mettiamo su stessa sulla picca, almeno questo è il problema. Senti tu, compare un essere gobbo. Ah, che figo! Con i capelli bianchi e lunghi. Uccidere chi? Vorrei proprio vederti a uccidere chissà chi. Ah, adesso o chi che vedo. Sia. Possiamo fare un po' di... Che figo, e come hai fatto? È gobbino, tiene i capelli lunghi bianchi. Oh, finalmente mi piace parlare con qualcuno. Ah, finalmente ti vediamo. Sei tu? Sì, sono io. L'origine della voce, bene. Registrata, mi dico. Oggi... Lei non era molto registrata, io non sono molto registrato del resto, quindi... Vedi, già mi sei più simpatico. Poi bello poter vedere coloro con cui si parla, dice quello che sempre... Poi non può portare sfortuna, no? È gobbo. Quale gobba? Esatto, quale gobba? Quale gobba? Nessuna gobba, nessunissima gobba. Volevamo sapere, grosso ma... cheat. Con riferimento alla creatura, cosa ci può dire? Ci ha detto gobba? Che... Se fossimo tornati... Le gobbe fantastiche. Se fossimo tornati con delle informazioni in più sul Behemoth, ci avrebbe potuto dire qualcosa in più, anche lei... Sul Behemoth. E magari sì, su come entrare... Sappiamo che è una creatura mostruosa che si nutre di villaggi. Il Behemoth. E cosa c'è nel Nord-Ovest di preciso? Come si entra? Oltre al Behemoth. Ma che ne so, cosa c'è nel Nord-Ovest? Sappiamo di un certo passaggio che ha origine nella banca. È della parola magica per aprirlo, quello. Sì, quella parola mi piace molto. Come si chiama? No, mi piace così tanto che la voglio tenere per me, ovviamente. Ma no, le cose belle si condividono. Esatto. No, giusto. Tutte. Non tutte. Tipo la fidanzata, no. Se sconfiggessimo il Behemoth... Tipo la moglie, no. Se sconfiggessi il Behemoth, cosa molto improbabile, sì. E potrei darti la parola magica che mi piace tanto. Ah, potresti provarci, diciamo, un aiuto a sconfiggere il Behemoth. C'è qualcosa che puoi fare per noi? Non so, devo ucciderlo io quindi? No! Sarebbe ricompensa. No, no! No! Lo uccido io, ma tu non saresti capace di pugnare una spada neanche a volerlo. Ok, può darsi. Una spada no. Vabbè, dai, ho capito. Vado a ammazzare il Behemoth, ci vediamo dopo. Da che parte, ragazzi? Non ha bisogno di una spada. No, per andare da Behemoth, dico. Behemoth un po' più avanti di così. Tuttavia potremmo passare prima dalla nostra comune amica. Forse questo lo lui da saperlo, però. No, no. Vabbè, tanto. Quali sono le creature strane, tu che te ne intendi di creature, che dimorano nella biblioteca? Non ne hai mai sentito parlare? Ti guarda e si strofina un occhio. So fa un occhio e fa così. Ma tu chi cavolo sei? Lui è la face del gruppo. Io sono Baka Andorius delle Dune Rosse, detto anche lo spaccamuri o lo spacca... Genovefe. Sì, purtroppo sì, è detto così. Demolitore di prigioni e leggenda del deserto. E che cosa vuoi sapere su una biblioteca? Che cosa ne posso sapere io su una biblioteca? Sei sempre qui, farai qualcosa, no? No. Ma è una bella vita, in effetti. Però tu che te ne intendi di creature, sai, ci è stato detto che lì ci sono delle creature molto strane, dei suoni un po' particolari. Io mi intendo delle creature dello zoo. Dello zoo? Sì. Perché è molto come il Tassara, Pada, come si chiama, non lo scordo. Ah, sempre. Quelli che tu addomestichi? Sì, esatto, loro. E non sono riuscito a addomesticare. Ah, ma siamo allo Zoo Lab, con il Final Fantasy X. Loro, diciamo, che erano creature dello zoo che sono, diciamo, sfuggite durante il... Ah, ok. Qua c'erano degli zoo più importanti, diciamo, perché scrittura che avevo fatto riuscire a catturare. Ci sono delle creature che sono ancora rinchiuse nello zoo? No, sono quelle che ho, sono riuscito a, diciamo, addomesticare. Ma altre gire si aggirano per la città libere? Solo il Behemoth è rimasto in vita. Ho capito. E un'accusa ti interesserebbe nello zoo? Un'accusa? Un'accusa? Una? Il diavolo mezzo mosca. No, non mi interessano i diavoli, mi interessano le bestie magiche, idiota. È metà mosca. Si capiva che gli interessano le bestie magiche. Adesso contentiamolo. Un coso non è una bestia magica. No, è un diavolo. Vabbè, poco importa, scusami, è metà, vuol dire. Asseconderei comunque. Va bene, gli ammazziamo il Behemoth. Abbiamo deciso, abbiamo un accordo per quanto si possa ragionare con lui. Che conto abbiamo? Il nostro accordo è l'uccisione del Behemoth per la parola d'ordine. Ma non è una, proprio una... E sia un accordo più veritiero, diciamo, meno mendace che quello che ci hai proposto l'altra volta. Già ci ha fregato una volta, adesso ce l'abbiamo qui. È la nostra unica chance. Sì, voi che avete frainteso semplicemente. Ma sentiamo. Adesso mi sembra chiaro: la parola magica è esatta per aprire il passaggio che parte dalla banca. Un indovinello, una cosa simile. No, no, la parola. No, nessuna prova che parte dal superamento di un'altra prova. Che noiosi, mamma mia. Ci dai questa parola magica? E se fai bravo ti portiamo fai con delle noi. Prove per dire peccato. Fai il sense motive. Sì, si sta 10 più 22 34. Così pazzo che non riesce a capire. È quello di Light to Me, no? Sta mettendo, no? Non riesco. Comunque ti sembra abbastanza sincero nella sua follia. Per quanto possa essere folle, posso dire che dovrebbe essere sincero. Però non sai se magari lui pensa davvero che vi darà la parola. È completamente certo, poi cambia idea. È un rischio calcolato che ci dobbiamo far carico. Credo che però sia meglio... Andiamo via. Perché dici che ladro ci fa brutto? Beh, perché è la persona più che combatte. Perché è l'unico che combatte. Perché è molto potente. Forse la più temibile di tutti voi. No, sto scherzando in realtà. No, però lo dico perché fa figo. Cioè, non è vero proprio. E allora... Nessuno è più potente di Bug. Quando sono salito a bordo è l'unica che mi ha veramente... I cui poteri mi hanno impressionato. Davvero? Sì. Forse lo devo dire in tutta la magione. Vediamo se poi si è impressionato. No, non è un sintomo di potere. Distruggere la magione, soprattutto dei poveri spiritelli che si dissipano. Che non muoiono, ma si dissipano. Andiamo. Dirigete verso la biblioteca. Facciamo... stando attenti a non passare magari per le io farei così, voi che dite? Sì, in un'oretta idea. Siamo lì. Andiamo, sono sempre allerta. Sì. Ah, giusto, sì. In un'oretta siamo alla biblioteca. Un'oretta. Sì. Va bene. Baka, entra. Riuscite a evitare lo sguardo delle ombre della città. No? Intanto magari qualcuno vi scorge, ma vi riuscite a nascondere rapidamente poco dopo. Perfetto. E questa perde le vostre tappe. Ma la biblioteca è chiusa o aperta? È aperta, chiaramente. Giunta a questo edificio imponente, altissimo. Saranno una ventina di piani. Si staglia ve ne sono a pochi di questa altezza, magari avete dedotto che gli altri così alti sono sostanzialmente il tempio, la banca, più qualcos'altro che magari non vi è stato menzionato semplicemente. Chissà quanto sapere è conservato qui dentro. Ti piacerebbe leggerli tutti? Diciamo che l'architettura è abbastanza moderna, è molto vetro nella costruzione, finestre molto ampie. Vediamo qualcosa all'interno dei vetri? Dei movimenti magari? No, sembra essere tutto deserto. Se qualcuno vi si nasconde probabilmente lo fa nelle stanze, diciamo, che non danno sulla... Scritte, urlo il nome della tipa così esce? Non lo so, potremmo provare ad entrare. Quanto è grande? Cioè, è molto grande. Cioè, capiamo che non si può essere. 20 piani? Sì. Si può provare. Tu, quei guanti, puoi vedere attraverso il muro? Cioè, ogni singolo muro per vedere se vedi qualcosa. Eh sì, però magari... dobbiamo comunque entrare. No, da fuori. Ma dura pochi round, cioè. Vabbè, magari siete giusto un qualcosa, no? Riusciamo a scoprire le tracce, scusa. Lei dovrebbe essere tipo l'unico segno di vita da un po' di tempo. Da questa parte. Perché ci sono anche le creature strane che ha detto tizio. Ci sono delle tracce? Riusciamo a fare survival. Survival? Qualcuno ce l'ha? Forse ce l'ha la Giulia. Se la Giulia... No, almeno due sono tizio. Non ce l'ho. Io ce l'ho di classe, ma è da 4 gradi. Quindi. Io ce l'ho 6 survival. Giulio, tu non ce l'hai. Siamo incapaci di sopravvivere. 16 in totale. Distruggiamo draghi potentissimi, però se ci lasci da soli e senza mangiare nel deserto, moriamo. E buchi qualcosa. Già. Sì. Semplicemente quei 16 acqua. Niente. Acqua e cibi finiti. No, no. Anche perché sono andiamo tracce vecchie. O creo, o è qualcosa che ha survival. Poi andiamo nella magione. E stiamo lì un po'. Vado in bagno intanto. Vabbè, io posso vedere più guanti o qualcosa dall'esterno? No? Sì. Però, boh, alla fine sprechi round, cioè teniamocelo magari dentro. Che difficile che la... Che la fuori, sì. Meno che non ci siano dei grandi saloni. Dimmelo. Potrebbe essere comunque utile, magari un round. Magari un po' spostata rispetto alla porta, un po' verso destra. Devo fare una prova o lo faccio in automatico? No. Vedi direttamente attraverso. Ok, vedo attraverso. Vedi un ampio corridoio che, cioè, copre tutto il portone. Che... No, ma dicevo, cioè, vabbè. Tu spiegagli. Che prosegue nell'oscurità. Ok. Il corridoio sembra essere alto. Questo è quello che c'è oltre la porta. Invece proprio essere la porta, cioè... E non può fare una prova di perception per vedere se ci sono creature che si muovono così così. 9 più 18, 27. Beh, è vero, team, se no poi capite quando ci vuole. Certo. Lo? Ah, oddio. Ah, sì, non si sa se è vero o no. Che non è fallimento automatico. Perché magari fa un altro round spostandosi da questo corridoio. Un po' più a destra. Ecco, magari. Un po' più a destra, superando la parete, no? Cioè, qui c'è il corridoio, no? Giusto? Anziché guardare da qui, guarda da qui per vedere cosa c'è qua. Ah, sì, cioè, vedi la stanza a fianco. Non c'è niente di che. Vabbè, non ci sono creature, dico. Vuoi lo fa, ma cioè, non so se io eviterei di farlo. Va bene, lo evitiamo. Beh, allora entriamo di qui, forza. Introduciamoci dentro. Portale chiuso? Sarebbe utile se evocassi qualche... Aspetta, lei comunque vede in lontananza, immersa nell'oscurità, vede comunque, diciamo, una figura a stento visibile, ma comunque presente. Non sembra essere ferma lì. Ah, nell'oscurità vede una figura... In fondo al corridoio? Sì, che erano in fondo, cioè, nel senso, in lontano, mezzo. In mezzo al corridoio. È possibile fare una prova di conoscenza qualcosa per identificarlo? No. No, ok. Tu, Davide, hai qualcosa per fare la sì. luce? No, la luce sì, però... Entriamo. Ho un'idea. Ho un'idea. Allora, da dentro, allora, uso Ghost Sound e faccio originare la voce, però non so perché, forse la porta blocca la lì. Sì. Però sì, blocca sia Line of Effect che Line of Sight la porta. Anche se indosso i guanti di... Certo. Ok, peccato. Mica sono sfortissimi dietro il muro, lanci incantesimi. Ti fai il muro enorme, poi lanci incantesimi da lì e chiudi il muro tutte le volte. Allora disponiamoci con bassissima voce. Faccio segno di allontanarmi un attimo dalla porta e vi dico: disponiamoci ai margini della porta. E E bussiamo. Non proprio bussiamo, nel senso farò in modo di chiamare dall'esterno, vediamo se qualcuno apre. Se vuoi vedo io. Non spiegare incantesimo. No, è un incantesimo talmente poco potente che non mi richiede nessun tipo di energia. Eh no, perché ho tutto visto un po' debilitato con gli incantesimi, non vuoi che li spiegassi, sai. Non ero debilitato. Sei un po' debole. Silenzio. Posso anch'io. Posso anch'io. Ma non lo so, vabbè, se no bussa. Bussa. Vabbè, fai l'incantesimo, se preferisci proprio. Cosa se ti offendi. Fatto? Niente. Ma no, vabbè, dai, chiamiamo solo... Hanno visto una figura in lontananza. Sì, esatto, tu oltre la porta hai visto una figura nera immobile. Come chiamiamo Azalea, vediamo così. Grido Azalea fortissimo, facendo sempre... No, lo fermo. Dai, non fortissimo, tipo un po'... Che lo senta oltre la porta. Azalea. Che Azalea non è qui, ragazzi, grido Azalea. No, non lo gridi, infatti. Ma non è così lontana, se l'ha visto, cioè, nel senso... Cioè, sarà a 4 metri per quella porta. No, 20 metri. Ah, così tanto? Vabbè, in modo tale che c'è un tono di voce simile, cioè, che riesco a sentirmi fino a circa la distanza. Che tra l'altro è la distanza massima che può fare. Comunque, qui dura 30 metri. Ah. Cioè, è il fit, il quinto metri. Vabbè, lo faccio. Succede qualcosa? No, assolutamente. Sfonda la porta. Quello che mi dicessi. No. Tiro fuori il file, boom, mi rendo invisibile mentre sfondo la porta, dandogli anche fiamme tipo sulle braccia, do fuoco, c'è la porta focata così. Allora dov'è la festa? Forza Coco, esci fuori che ti dirò due mazzate. Corricchia verso la porta a quello che sembra essere un suli che indossa una tunica e fa: ma perché avete ucciso la porta? Avete distrutto la porta? Che cosa vi ha fatto di male? Ma parla, buona domanda. Questa adesso dovremmo ricostruirla. Scusami. Pensavamo che fosse disabitato questo luogo. Che ti ho visto lì nell'angolo. Ma questa è la più importante biblioteca Suli. Come potrebbe essere disabitata? Ma è un Suli vivo? Sì. Se vedi, tu normalissimo. Sembra essere normale. Cioè, sembra essere uguale a me, come lo vedo? Assolutamente sì. Tu sei il mio parente. Cioè, è molto strano. Non penso. Non è che tutti quelli da Sarasa sono parenti. Cioè, è che da queste parti mi ha detto che sono l'unico. È molto strano, esatto. Il fatto che... Mi hanno detto che gli ultimi governi avevano fallito nel programma educativo, ma... Non esce spesso da qua. No, certo. Come... No, sono l'addetto della biblioteca. Come? Un archivista. Come si chiama? Un archivista, lei? Sì. Come si chiama lei, buon... Su. Mi chiamo Faraon. Vabbè, noi stiamo cercando un'amica. Ha visto qualcuno? Sì, Azalea. Una droga. Passava di appetiti. No, non ho visto nessuno. Ma prego, cioè, indicate lo scopo della vostra visita e distruzione della porta per la quale... Devo chiedere il denaro, chiaramente. L'ha detto lui. Sì, è vero. Quando ho gridato... Stranamente. Quando ho gridato non ha risposto nessuno, allora ho pensato che qualcuno stesse male e mi sono preoccupato. Che giusto. 4. Sì, tuttavia. Sì, è un buon motivo. Ho pensato qualcuno stesse male, poi... Sì, vabbè, dai, facciamo che per questa volta chiuderemo un occhio. Grazie. Grazie. Grande, Baka. E lei da quant'è che è qui? Lavoro qua da una decina d'anni. Ed è solo? No, chiaramente no, ci sono tutti gli altri impiegati. Ah, possiamo fare un giro nella biblioteca? Ma certo, cosa serve se no? Mi incuriosisce molto, grazie. Intanto... C'è bisogno di tessere, cose del genere? Cioè, no, è aperta al pubblico, a parte le zone segrete private. Non si può entrare nelle zone private. Cioè, questo fa entrare un gruppo di guardieri? Beh, perché no? Perché no? Noi siamo affamati di scienza, Cam. Sì, adoro demolizioni. Studiamo in che quello che vedi, cioè, parla come se... Fosse una città normale. Normalissima. Cioè, ma scusami. Quindi vabbè, c'è. Presume che se fate casino arrivano delle guardie, queste cose qua. Cioè, non è che ci sono. Come entrare nella biblioteca normale. Quindi, scusami, ma tu da quanto tempo è che non esci dalla biblioteca? Boh, 3 giorni penso. Ho fatto un po' di turni extra turni. Sai che cosa sta succedendo là fuori? Ombre, non morti. Molto particolare il fatto che l'accuser non sapeva di altri suoi. Cioè, tu non sai cosa succede là fuori? Ma là fuori è tutto normale. Cosa stai dicendo? Quanto l'acqua? Quanto è grosso il Suli? È come te. Cioè, nel senso più piccolo perché lui non è un barbaro muscoloso. Ok, lo sollevo. Oh, con una mano? Ma vedi, che cavolo fai? Bacca, mettilo subito giù. Fare una prova di grappolo. Che tira sempre. Ma devi fare qualcosa di avventi. Ogni volta che devi fare cazzate tira dei... Vabbè, non è colpa mia, scusate, no? Vabbè, 31. Cazzo di archivista. Mettilo subito giù. 31 più 15. Che diamine stai facendo? Non so. 46. Lo porto fuori, deve conoscere. Lascialo. Io sono stare. Per il perdimento sul campo. Ha diritto di apprendere dove meglio crede. La biblioteca è un luogo di conoscenza. Sì, certo. Prova ad andare te da fuori, ragazzi, i campi stanno lì sui libri. Dai, forza. Lascialo cammina. Stare, evidentemente non vede è quello tanto. Che vediamo noi. Lo guardo. Mi sembra che gli occhi ce li ha buoni. Gli occhi ce li ha buoni, ma... Io ce l'ho su così, potresti mettere. Ma non mi sembra il caso di chiamare le guardie. Ma ci sono diversi filtri magici che si possono frapporre tra l'occhio e la percezione. Lo appoggio giù. No, piccoletto. E sono piuttosto incuriosito da quelli che sono. Sì, certo. Dice spolverandosi la tunica. Ci scusi, lo scusi. È piuttosto irruento. Va bene. Conosce l'indole della sua. Capisco proprio che purtroppo. Là fuori c'è la fine del mondo. Qualcosa deve essere andato storto con questo individuo. Probabilmente la società ha fallito con lui. Sì. Infatti. Non parla meglio della società. Non io faccio che società. Ripeterlo. Possiamo vedere il reparto giochi? Di storia? Anzi, di attualità? Giornali? Certo, seguitemi. Il reparto dei giornali? Vediamo la data dei giornali. Sì. È la data o gli ultimi avvenimenti? Prendo il tuo nuovo cosa legge? No, quando vi addentrate nella biblioteca. Tutto distrutto. Sì, chiaramente gran parte è in rovina, tutto è distrutto. Vabbè, tutto. Tutto cosa? In disordine. Certo che è tutto in disordine e distrutto. Cosa pensavate? Ecco, mettilo giù, mettilo giù. Io gli voglio tirare ammazzate, sempre di no. Beh, ha ragione lui, non ci ha dato modo. Arrivano. Escono dai lati delle porte della stanza altri 5 come lui che vi guardano con aria minacciosa. Ora dovremmo forse darvi in pasto ai nostri capi. Che brutto figlio di puttana. Che cosa che vi stupisce che nonostante l'arguzia di Baca e di Damasco voi non siete riusciti a scorgere il benché minimo dubbio, sospetto di questa imposcata alla sua voce. Esatto, cioè sembrava davvero dire in ogni momento la verità, cioè più del più grande esperto mentitore che abbiate mai conosciuto. Forte. Eppure, ho capito, non mi sembrava. Qualunque cosa si nasconda dietro questa sua abilità, probabilmente è temibile. Ho capito. Quindi veniamo accerchiati da quattro figure incappucciate. Sì, cinque come lui, sì. Non sono incappucciati, sono sorta di archivisti che però sotto la tunica nascondono un'armatura. Ah, un'armatura. E lui? Anche lui, che lui. Sappiate anche che lui. Non ve la darò. Infatti forse devi accorgere quando lo sollevavi, però sei stupido, quindi no. Probabilmente era peso sovrappeso. Ho pensato. Sono pesanti. Ho capito, figo. Non ve la darò vinta. Direi che possiamo chiudere qui. Cari fratellini. Sì. E si combatte. Che bello. 18, buono. Bello. 18 cosa? 18. Ho mettete un dado così, posso fare un 18 ogni tanto.